L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Luciani, ma te di cosa te ne frega? A te non te ne frega un cazzo di niente. A noi non frega un cazzo di niente. A te basta che si parli di puttane. Io vorrei parlare di puttane. Un proctologo che ti spiega come lavarti l'ano. E che cos'è? E basta, basta, a te solo quello interessa, solo quello. I cani, gli animali, sono meglio dei zingari del cazzo. Del cazzo. Meglio gli animali che i zingari. Che i zingari, che i zingari. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Rubano, stuprano, droga e rock and roll. Un bel mix per aprire, caro Parenzo, un bel mix. Che entrée, che entrée. Allora, ragazzi, cominciamo a incazzarci subito, eh. Subito all'inizio, prima incazzatura. Io dico solo una cosa, Boeri. Voi potete dire chi cazzo è? Come chi è? Signor Boeri, siete l'Ips, come è il presidente, cioè quello che governa tutte le pensioni italiane. Sì. Allora io dico Boeri, avanti tutta. Poi se non fai niente, vengo a impiccarti lì, vengo a cercarti con i forconi sotto l'Ips. Perché Boeri ha detto che si possono ridurre i vitalizi dei parlamentari del 40%, del 40%. Coi forconi vado, però, se non realizza questa cosa qua, coi forconi vado. No, rido perché tu non hai idea di cosa succede qua, comunque non importa. Comunque, qua sta succedendo di tutto, dietro il vetro della regia. Non mi interessa, sto conducendo una trasmissione. Non mi interessa, quello che succede a Roma non mi interessa. Si possono ridurre i vitalizi dei parlamentari del 40%, il 40%. Per me andrebbero cancellati tutti. Però, se proprio si può intervenire sul 40%, si faccia subito con un decreto legge, con un'iniziativa immediata, subito, togliamo subito il maltolto! Possiamo risparmiare 200 milioni di euro. Adesso non mi metto a fare i conti alla Barisoni e non so chi ha. Non mi interessa. Dettagli. Non mi interessano i dettagli. Si possono ridurre o no? Subito. Si possono ridurre. Si faccia. Basta chiacchiere. E allora. Sentiamo la reazione degli interessati. Per esempio, il tuo amico, so che ti sei riconciliato dopo una piccolissima discussione qui alla Zanzara con il signor Paolo Cirino. Ah, come no, certo, sì, signor sì. Paolo Cirino. Mi sono riconciliato. Sì. Paolo Cirino Pomicino. Due cognomi, Paolo Cirino Pomicino. Quanta gente è? Chi ha detto Cirino Pomicino? Dice che Boeri non capisce niente. Senti. E allora Boeri non tiene conto di questo ragionamento. Ma Boeri non capisce niente. Boeri è un professore che mi sta facendo ragionare. Oltretutto, se uno pensa di non capisce niente. E il vitalizio garantisce la dignità al parlamentare. Sono cose che mi fanno andare ai matti a me. Il vitalizio garantisce la dignità. Vi siete attribuiti da soli i contributi. Da soli i contributi. E non esiste al mondo che uno debba avere poi un vitalizio, una pensione per avere servito il paese. Di qualcosa ha diritto, di no, qualcosa ha diritto mio, sicuramente. Niente perché... vitalizio, niente vitalizio. Per strada, no, con per le strada. Sassate. Si procurino dopo un lavoro. Lavoro successivo, si lavora dopo. Basta. Se tu vuoi andare in Parlamento, non prendi il vitalizio dopo. Sai che non prendi il vitalizio, altrimenti è un lavoro, si trasforma in un lavoro e non deve essere un lavoro. Una indennità per quegli anni che hai una svolto piccola un liquidazione, servizio, una piccolissima... un servizio per, guarda, il paese. Ti posso concedere una piccolissima liquidazione. Ma lo concedi a me, alla democrazia lo concedi, non a me, figurati. Vergognati. Il sistema del vitalizio è una partecipazione dello Stato e del parlamentare a offrire un minimo di dignità successiva all'esercizio parlamentare per rendere libero il parlamentare e libera innanzitutto la funzione legislativa. Si è scoperto nei giorni scorsi che i parlamentari prendono anche una super assicurazione in caso di morte, cioè pagata da noi, una super assicurazione anche in caso di morte. È la polizza vita infortuni degli onorevoli, costa 1.200.000 euro l'anno e ovviamente la paghiamo noi. È una super assicurazione che prevede sia in caso di morte degli onorevoli o in caso di infortunio dare agli eredi o al deputato in caso appunto di infortunio una somma molto alta, anche sopra i 500.000 euro. Tu ti rendi conto o no? Cioè, noi paghiamo un'assicurazione in caso di morte di deputato. Ma lo scandalo vero è che non sappiamo esattamente quanti benefici hanno i deputati. No, cioè, sappiamo, se i cittadini... Ogni volta ne salta fuori uno. Quindi, se noi sapessimo tutto, fossimo informati su tutto, ci sono alcune cose che vanno indubbiamente eliminate, vanno tutte insieme. Questa dell'assicurazione è una stupidaggine colossale, ad esempio. Però oggi è una giornata straordinaria. Aspetta, ore 10. Perché Londra, questa è la notizia più importante del giorno. Mamma mia, Londra ha il primo sindaco di origine pakistana della storia d'Europa. Bene. Sadiq Khan, a te dedichiamo questa puntata, caro sindaco. Ma vai a fare in culo, tu e Sadiq Khan, ma che cazzo me ne frega Sadiq a me del sindaco Khan pakistano? Ha conquistato Londra, primo cittadino d'Europa di origine pakistana. Londra civile. Ma perché è civile solo quando legge Pakistano, non ho capito. Sì, invece quando legge l'altro Boris Johnson. Boris Johnson era un guascone, simpaticone, un po' così. Senti, hai detto la tua boldrinata della serata. Anche Roma ha perso una grande occasione, perché avrebbe potuto avere un grande cittadino di origine immigrata. È importante che sappia amministrare la città, che me ne frega se è pakistano. Grande segnale, arabo. Sadiq Khan, sindaco di Londra, simbolo per tutti noi. Vabbè, hai detto la boldrinata della serata. Boldrinata di Parenzo. Ma che c'entra? Ragazzi, io ho sempre detto, a proposito di sindaci, una cosa. Ho sempre detto che il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma, che si chiama Raggi, secondo me aveva una sola chance, e ce l'ha ancora, moltissime chance di diventare sindaco, ma soprattutto doveva evitare di parlare. Cioè, se uno sta zitto è meglio, dire il minimo indispensabile. Tanto gli altri si fanno male da soli. Cioè, stare muti, stare zitti, dire veramente il minimo indispensabile. Ha cominciato a parlare e, come al solito, sentiamo questa roba qui. Vuole colorare gli autobus in base al percorso. Colorare gli autobus. Una priorità. Il problema degli autobus non è colorarli. Che arrivano, che non arrivano colorarli. Puntuali. L'adozione di una colorazione diversa per gli autobus che girano a Roma. Ad esempio, si può ipotizzare il posizionamento di una banda colorata sulle fiancate e davanti all'autobus per differenziare gli stessi autobus a seconda del percorso. In questo modo gli utenti che aspettano la fermata non debbono attendere che l'autobus arrivi praticamente sotto i loro occhi per poter individuare il numero e capire se è un autobus di loro interesse, ma già da lontano sono in grado di capire quale auto sta arrivando, se è un autobus che può essere utile o meno. Però, scusa, cara Raggi, il problema di quelli che stanno alla fermata dell'autobus è che quando c'è dispositivo elettronico in cui che indica l'orario, l'arrivo, questo non viene mai rispettato. Che gliene frega a quelli di vedere arriva il blu, arriva il giallo, il canarino, e poi quanti colori devi fare per tutti gli autobus di Roma? 540 colori, ma che è? Poi aspetta, non è finita la funivia per Roma. Sì. Una funivia, il trasporto. Ho scoperto che si tratta di una regola, di una idea del 2011, del 2010, per collegare un quartiere che si chiama Casalotti a non so quale altro quartiere. Cioè, un'idea così, insomma, piuttosto bizzarra, divertente, la fa propria. Cioè, la Raggi dice che per risolvere il problema del trasporto a Roma si può, in alcuni casi, in alcuni quartieri, costruire una funivia per aria. Pensate. Una funivia per aria, bellissimo. Per cui i cittadini, da una iniziale battuta a cui si dovrebbe volare per arrivare a Roma, hanno incontrato un professore dell'università estremamente ironico ma altrettanto intelligente, che, guardando quello che accade nel resto del mondo, ha già studiato un sistema di funivia che permetterebbe di portare i cittadini senza impattare sul traffico, sulla mobilità esistente. La funivia, sì, sì, sì, la funivia, quindi le cabine, i pali. Ti rendi conto o no? La funivia, sì, magari può servire da un quartiere a un quartiere per un tratto minimo. Ma che funivia? Ma di che cioè, parlare? In alcune città, per esempio. Ma non fate so. Funzionare la metropolitana. No, ma fate ho già detto che è una puttanata. Cioè, non bisogna nemmeno citare la funivia per risolvere il problema del traffico a Roma. È veramente una cosa patetica, ragazzi. Dai, su. Io ho detto sempre: stia zitta. Stia zitta. A proposito di candidati, ti ricordi Marchini perché adesso arriva il sondaggio di Libero. No, ma ti ricordi Marchini qualche giorno fa che cosa aveva detto? Che se suo figlio si fosse fatto le canne non sarebbe uscito dal coma. Te lo ricordi la frase? Sì, sì, certo. No, ma risentiamo, che interessante. Io lei come so ha avuto un figlio che purtroppo ha avuto un incidente, è rimasto in coma e fu miracolato. Io ho fatto uno studio approfondito su che cosa succede dentro la testa di un giovane che ha avuto un incidente. Questa mi disse, guarda, che se suo figlio ha avuto un recupero è solo perché non si è mai fatto delle canne. Se mio figlio avesse fatto uso di droghe leggere, non è certo un crimine che tutti quanti lo fanno. E sai cosa succede? Un secondo. Si crea una fattura nel cervello e quindi l'input... Allora... Il medico, la dottoressa che ha preso in cura il figlio di Marchini ha detto che è una puttanata. Non c'è correlazione scientifica tra il fatto di non consumare sostanze stupefacenti e il risveglio dal coma. L'uso di alcol e di sostanze stupefacenti non è in generale salutare per il cervello, ma non ho mai sostenuto che il figlio di Alfio Marchini si sia risvegliato dal coma grazie al fatto che non faceva uso di sostanze. Puttanata, subito scoperta. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. mattino 5. Si parla di contrazioni del perineo e posizioni coitali. Siamo al top. Allora, caro Parenzo, ormai è tutto ribaltato, no? I talk show parlano di cucina, i talk show parlano di sperma nelle lenzuola degli alberghi, eccetera, eccetera. E mattino 5, canale 5, ore 10 e 15 del mattino, si parla apertamente di sesso. Ospite il mitologico professor Bossi. Più tardi ne sentirete parlare, più tardi qui alla Zanzara, il professor Bossi, il quale esprime la sua teoria molto semplice. Molto semplice. 10 è uno 15, scienziato. 10 e 15 del è mattino. Uno scienziato. Ti faccio sentire. 10 e 15 del mattino. Le posture coitali sono nella grande fantasia di tutti, effettivamente, però di fatto sono poche quelle importanti e sono quelle, come diceva giustamente Mero la prima, che determinano il maggior piacere femminile. E tutti pensano dimensionalmente. No, affatto. È la minima penetrazione e la massima retrazione, perché va ad agire sui primi centimetri vaginali, laddove la sensibilità è massima. La teoria del sessuologo Bossi: minima penetrazione, massima retrazione. Allora andiamo a Vicenza, Laura, vai. Pronto? Dimmi Laura, dimmi. Pronto, ciao, sono Laura. Questo lo sapevo. Per sostenere la versione del mio compagno di staff. No, lo sento poco, Nicola, provincia di Venezia, dai. Pronto? Dimmi. Sono in linea, hai preso stato di santo. Ciao Crufani, ciao sì. Parenzo. Togli il viva voce, ciao, caro, ciao. Togli il viva voce. No, no, tutto, guarda. Non è che sono in movimento perché mi avete preso un attimo, mi fermo, eccolo qua. Volevo confermarti il discorso di ieri sul campo estivo per i bambini che hanno torto il collo delle galline. Sì, allora? Allora, niente, tu mettevi in dubbio il discorso del signore. No, non ci credevo, invece tu mi stai dicendo che... Ah, perfetto. Ok, solo questo. Allora? Niente. Cosa niente? È vero? È vero, sì, famiglia di contadini, tutti quanti, insomma. Non ho capito, come fai a sapere che è vero? Tua figlia ha fatto questo campo scout, non ho capito. Sì, lei non ha accettato. Gli altri bambini però, ci sono stati alcuni bambini più grandicelli che hanno torto il collo in pratica alle galline, hanno capito come ammazzare le galline. Va bene, ciao Roberto da Trani, dai. Salve, ma il problema è che questi nostri politici pieno per il culo, il problema del vitalizio di cui prima il signor Parenzo, come al solito, snob protegge quelli che ci inculano. No, non proteggo nessuno. Ho allora, detto no, che un vitalizio però, minimo ci sta, come in tutta Europa, so, minimo. Sta di fatto che hanno detto che questi soldi non li paga l'INPS del vitalizio, ma li paga il Senato e la Camera. Sì, ma sempre soldi non, nostri sono. A me non risulta che stampino denaro, sa, la Camera e il Senato. Quindi vuol questo dire che lo Stato deve approvvigionare la Camera e il Senato e spendere soldi per gente che ci ha fregato per anni, che ha avuto compensi esagerati rispetto a quello che hanno prodotto, sì, e a quello che è la realtà di oggi. Quindi credo che questa gente dovrebbe rinunciare in maniera assoluta a un surplus rispetto a quello che oggi guadagnano. Perché no, ma il problema non è questo, Roberto. Il problema è che i vitalizi si sono attribuiti da soli il quantitativo, certo, di vitalizio, certo, e poi oggi dicono: beh, questo fa parte del bilancio della Camera e del Senato. Ma che cazzo c'entra? Ma bilancio è... per il culo, ci pino per il culo. Lo togliamo questo bilancio, riducono il bilancio, le famiglie riducono il bilancio, le imprese riducono il bilancio, lo Stato e questo è giusto. Questo di ridurre è giusto, non c'è dubbio. Guarda, bisogna questa roba qui del 40% in meno del vitalizio dei parlamentari, una cosa che va fatta subito, immediatamente con un decreto. Ma fottendosene dei ricorsi, fottendosene dei ricorsi. Va tolto, va tolto tutto il va tolto il 40%. Va tolto il 40%. Via il 40% perché hanno, come dire, il metodo che viene usato è diverso da quello degli italiani, degli altri italiani. Alessandro da Roma, dai. Alessandro. Pronto, Cruciani? Dimmi. Pronto, allora Cruciani, volevo raccontare, io sono stato in Cina, sì, sono ritornato da poco, sì, e in Cina ho mangiato tutto, ho mangiato tartarughe marine, gli scorpioni che vengono messi fritti nell'olio, perché sono infilzati vivi e muovono tutte le zampette, sì, su quel paletto in cui sono infilzati, però vengono messi vivi nell'olio bollente e te li mangi. Ma cosa, scorpioni o scarafaggi? Schifo. Non ho capito. Scorpioni, no, no, scorpioni. Poi ho mangiato il millepiedi, che è una cosa lunga 20 centimetri, e poi ho mangiato le cavallette fritte. Mm. Le cavallette fritte, vabbè. Vabbè, ma perché ce lo stai perché ce lo stai raccontando adesso? Ecco, perché le cavallette fritte, guarda, è una cosa allucinante, sanno di panino del McDonald's, hanno lo stesso identico sapore del panino del McDonald's. Quale panino? Ce ne sono tante a McDonald's. E l'hamburger, la carne che viene messa dentro il panino del McDonald's, l'hamburger classico. Cioè, tu dici le cavallette fritte. Le cavallette hanno lo stesso identico sapore della carne, dell'hamburger, del McDonald's. Bene, tutto questo excursus tra tartarughe marine, scorpioni, mille piedi, cavallette fritte, che ci hai raccontato dalla Cina, per quale motivo al mondo ce l'hai raccontato, caro Alessandro? Ma così per condividere, capito? Ah, per condividere una schifezza, certo. Ma perché schifezza? Scusa, schifezza, me reputo quel cibo cose... Ma perché una schifezza? Non per fortuna in Europa quei cibi sono vietati, tu sai meglio di me. No, purtroppo per ipocrisia. Mo aprono i micro allevamenti, che sono allevamenti di cavallette, li apriranno in Olanda. Ho letto un articolo sul Messaggero. Le cavallette, lei ha parlato di scorpioni, vermi, io parlavo di questa cosa. Le cavallette si sono mangiate anche a Expo per quello. Io credo che tutto sia consentito. Cioè, tutto si può ma poi sono proteici, sono buoni, cioè fanno bene. Le cavallette sono Posso proteiche. Dire che mi fa schifo chi mangia le cavallette, chi mangia i vermi, chi mangia gli scorpioni, o sono politicamente corretto se guarda, ritengo che mi fa schifo chi mangia gli scorpioni? Guarda, fa un po' schifo quando mastichi che escono un po' le zampette dalla bocca mentre ma mastichi. Mi fa schifo, ma insomma io mangio la chianina, la bistecca. Ma perché bisogna impedirlo? Non ho capito. Perché bisogna impedire di mangiare le tartarughe ci marine? Sono ma perché a parte che le tartarughe marine sono, come dire, animali anche in estinzione. Mangia delle tartarughe marine. Vai in Cina, mangia le tartarughe marine e non rompere le balle a noi. Ma non ho capito per quali ipocrisia noi dobbiamo proibire. Allora mangia anche il cane a quel punto. Io infatti sono a favore della ma allora rendete lecito mangiare il cane? È una cosa follia. Perché ogni paese ha la sua tradizione, anche il suo rapporto con gli animali. Ha il suo rapporto col cibo e con gli animali. Ogni paese ha la propria tradizione. Io vorrei mangiare dei cani di allevamento per capire come. Comunque deve essere possibile mangiare anche i cani di allevamento. Guarda, fermo. Posso dire una cosa a Parenzo? Fermo, non abbiamo tempo. Non c'è tempo, arrivederci, vado a quel paese. Amici miei carissimi, siete in ascolto la pubblicità. Pubblicità. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30. Su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Lo so che la Zanzara è una piccola enclave di cazzaroni rispetto a un palinsesto serio. Lo so benissimo, lo so Cruciani che tu non sei Giannino, non sei Marisoni, Marisoni, Marisoni, Marisoni, Marisoni, Marisoni. Lei è un maiale perché ci fa sentire tutte le sere le sue preferenze. Radio 24 è diventata radio porno. Mamma mia, Cruciani, adesso con sta storia del che vorresti assaggiare i cani d'allevamento. Non oso pensare. Mo saltano fuori tutti gli animalisti e te se inculano. Cruciani, ma te li vai proprio a cercare, mannaggia a te. Però una coscetta ma mangiare pure io, ti dico la verità. E ricordatevi che il parere è come il buco del culo. Ognuno ha il suo. Parenzo, se i musulmani diventano più di noi, tu sei il primo a essere appeso per le palle, ricordatelo. Auguri. Allora ragazzi, mi hanno mandato un sacco di messaggi, di critiche, perché ho detto che l'idea del candidato sindaco di Roma dei 5 Stelle, la signora Raggi, di fare delle funivie, è in realtà un'idea che è presente in un sacco di città, insomma una trovata, una bella trovata. Allora, io dico solo una cosa, siamo seri, si può realizzare qualche piccola funivia in un quartiere, in due quartieri, ma che questa dice? Roba qui della funivia, cioè della teleferica, per esempio ce n'è una bellissima a Perugia, perché ce n'è una bellissima a Perugia? Perché... Ma certo, perché è in salita, perché dal esatto. Parcheggio sali su, ragazzi esatto. Miei, dai, ma ce di che n'è una parliamo? Bellissima ad Orvieto, nel mio, dove ho casa io, c'è una teleferica che porta su dal parcheggio sotto della stazione fino... Ma sul Tonale c'è la periferica, sul Tonale! Non si può pensare... Madonna di Campiglio c'è la teleferica. Non si può pensare di risolvere il problema del traffico a Roma con la funivia. No, a Prati, con le funivie. Da Prati ai Parioli. Ragazzi, con la non si può fare. Cioè, sai quei film di fantascienza dove ci sono, sì, no, dove sì. Ci sono quelli che circolano? Di fanta minchia, non di fantascienza. Comunque non mi interessa niente perché oggi è una giornata storica. Sadiq Khan ha conquistato Londra. Primo sindaco pakistano, musulmano, mia, europeista, ragazzi. Però gay. Questo è il nuovo sindaco di Londra. A Padova c'è Bitonci e a Londra c'è un sindaco, Sadiq Khan, pakistano, ragazzi, musulmano, europeista, però gay. Padova, Bitonci, mettete, questa è la fotografia. A Padova c'è un signore che si chiama Bitonci, anche il nome Bitonci, ma che cazzo, anche del nome, capito, già. Ma se i cittadini eleggono democraticamente un sindaco, tu ti ribelli. Ma io voglio farti vedere la capito. Differenza. A Londra, città cosmopolita, ma magari questo città di grandi gallerie d'arte, la City, di tutto. C'è un pakistano e nella tua città? A te di più, un sindaco musulmano, di origine pakistana. Ma perché musulmano, mi devi fare due coglioni così oggi questa roba? Europeista, ma chi europeista, promosessuali, sindaco di una grande città come sua. Londra. A Padova chi c'è? Bitonci. Va bene, abbiamo capito, hai già detto. Gio Formaggio è sindaco di Gio Formaggio. Cioè, guardate chi abbiamo in questo paese. Gio Formaggio. Io voglio farti sentire invece a Londra c'è un sindaco pakistano. Va bene, abbiamo capito. Adesso voglio farti sentire quello che avviene dalla Chiesa Cattolica, perché io vado ai matti, vado veramente ai matti. Stiamo parlando di un sindaco che credo che sia un monsignore di Palestrina, che si chiama Sigalini. Sì, come Monsignor Sigalini. Monsignor Sigalini. Ora io dico una cosa, adesso ve lo faccio ascoltare prima, ve lo faccio ascoltare. Si sta parlando di quella sentenza della Cassazione dell'altro giorno, di cui abbiamo parlato anche noi, in cui praticamente chi ruba per necessità, chi ruba per fame, non può essere colpevolizzato, cioè non è colpevole, non può essere punito. Questo dice la Cassazione. Questo dice la Cassazione. Monsignor Sigalini, senti, senti. Sigalini, sentiamo. La proprietà privata è sacrosanta, ma di fronte a un fatto grave di vita non esiste più, perché l'altro ha diritto di vivere. Cioè, io vado ai matti, mettete a disposizione tutte le cazzo di case che avete. Cioè, mettete a disposizione tutto il patrimonio che avete, l'enorme patrimonio che avete, perché io quando sento un monsignore parlare di superfluo, senti, o di proprietà privata, quando questi hanno palazzi interi, proprietà, soldi, e ci rompono i coglioni dicendo che la proprietà privata, non la loro, la nostra, deve avere un limite quando si tratta di sopravvivenza e quando si tratta di fame. Chi Cruciani, c'è? Antonello? Voi, chi? Ma mi prendi in giro? Chi c'è? La proprietà privata. È entrato, basta. Che è successo? Antonello Venditti! Antonello Venditti! Bravo. Come stai? Come stai? Benissimo. È entrato, perché? Gli ho detto entra alle 7:30. Perché? Mi sono rotto i coglioni, è entrato. Bravo, ma che, perché ti prendo in giro? Scusa, non ho capito. Ti prendo in giro? Sto a parlare della casa mia, no? Ah, quella che devi vendere. La proprietà privata, cosa? Capito? Dai qualcosa pure te. Perché ospiti? C'è una casa così grande, ospita gli immigrati a casa tua. Sì, ma perché devi dire così? Ma perché devi dire? Ma lo so, dai, va bene. Va bene, farò tutto quello che dite. No, dite voi. Sto scherzando, ma è vero che vendi questa casa innanzitutto? Oh, innanzitutto no. Ma scusa, ho letto da qualche parte, sei tu che mi hai detto la casa. Guarda, le cose sono tutte in vendita, sono gli uomini e le idee che non si vendono. Tu non sei questo sempre, le idee non sono mai in vendita, questo è sicuro. Quindi io ho venduto, ho comprato centinaia di migliaia di cose in vita mia, fortunatamente. No? Beh, meno male. Dal motorino alla racchetta da ping pong. Beh, ho capito, il giardino. Beh, questo no. Quindi, mica considererai il denaro lo sterco del diavolo. Assolutamente. Il denaro rende libero l'uomo, però rende libero l'uomo. No, è un mezzo, è un mezzo. No, anzi, non è sterco del diavolo. Però il denaro va tramutato in cose, in sogni, quando uno ce l'ha. Certo, ma questo no? D'accordo. Però per vero, sei d'accordo con me? Case, cose. Sei il denaro si trasforma in possibilmente. Però ti rende felice, ti rende un po' più felice. Possibilmente in felicità e salute. Cosa però sei d'accordo con me che il denaro serve a rendersi indipendenti, a essere liberi? Assolutamente. La cioè, possibilità anche è di dire esprimere no. Le proprie idee e di dire sì. Di no. Di dire assolutamente, di no. Sì. Ora dimmi se è vero che vendi sta casa, però, perché ho letto da qualche parte che vendi sta casa. Io ci provo. La vuoi comprare? A sto punto, guarda, Crucia, compri da te. No, io no, perché no, non ho che i soldi. Lazio, lui la venderesti a un laziale? Ma che c'entra, la casa, che gli frega? Non lo so. Ma che gli frega? No, non lo so, ha detto, capito? Guarda, Cruciani, con me devi stare molto attento, perché c'hai già questo vizio. Che di che cosa? Qual è? Della Lazio. Sai, quello un laziale a Roma, insomma, ma io l'ho sempre considerato un grande per le cose che insomma, che no, lo so, non ti voglio offendere. Non sei un antilaziale, non sei no, un antilaziale. Ma io sono un anti niente. Però torno a chiederti la stessa cosa. Sai che sono insistente. È vero no che vendi sta casa tua a Trastevere? Molto grande. Guarda, voglio vedere quanto mi danno, sinceramente. Cioè, provi, vedi quanto vediamo. Le cose alla fine devono avere il loro prezzo. Questo poi, secondo me. Quanto vale secondo te quella casa? Guarda, non lo so. Posso dare una mano io, sai? Questa no, è solo no, 24 guarda, ore, c'è un sacco di. Ma che fai la vendita a Vanna Marchi? Ma io sono un grande imprenditore. Cioè, se mi riesce sto colpo è il massimo. Cioè? No? Perché è la più grande campagna di vendita. Cioè, i giornali sono diventati immobiliaristi, tutti. Cioè, non devi pagare la commissione alle agenzie, questo no. Dici. Quindi la cosa è divertente per questo. Quanto 10 milioni? Quanto vale una casa no, del genere? No, non lo so. 5, 6, vieni, 7. Guarda, vieni, faccio visite guidate ormai. Ma veramente? Casa mia, la conoscono, ma ti rendi conto che l'unico al mondo, ma manco per Berlusconi hanno fatto una cosa del genere. Vabbè, hanno scritto 2-3 articoli, Antonio. No, adesso, ma dai. Aspetta, no, con tutta la descrizione, le fotografie. Sì, è vero, ho visto, sì. È una una violazione. Le foto di Verdone, privacy. Le foto di Verdone. No, dentro. No, che foto? Ti ha fatto incazzare sta roba? No, non mi ha fatto incazzare, mi ha fatto dire guarda dove siamo arrivati, cioè non c'è limite a nulla. Però scusami Antonello, la casa molto grande di una persona molto nota come te, e sì. Se viene messa in vendita è normale che i giornali ci ricamino sopra, presso, te ma stai a stupire questa roba no. Qua? Ma no, non capita a tutti, perché no, assolutamente, non è così. Non è così, perché? Ma non è così. Secondo me invece è abbastanza normale che se uno vende una grande casa al centro di Roma. Tu sai dove abita, scusami, ma tu sai dove abitano altri miei colleghi oppure altri i politici? No, Alberto Sordi sono stati bravi. Ma giusto la casa di Alberto Sordi perché è morto, se mi volete. Nino Manfredi anche. Ecco, per cui anche se io non volessi venderla, sì, come non voglio ormai, in effetti, cioè ormai tutti sanno dove è casa mia. Cioè sei quasi costretto. Quindi, a venderla? Beh, no, sono costretto a fare delle cose perché la privacy è privacy. Perché ti senti violato nel tuo assolutamente intimo? Assolutamente sì. E chi è che ha iniziato questa roba? Assolutamente sì. Ah, io no. No, chi è che ha iniziato il primo? Qualche giornale, qualcuno dalla stessa. Cioè... Probabilmente sì. Sì, vabbè, ma questa è una ragione. No, ma questo adesso mi interessa. Non sono venuto a vederla. Però voglio dirti, le cose sono così. In Italia è così, è tutto. Cioè, per alcuni. Ma facciamo le pulci e le cose a chi invece. Io però c'è di tutto, Antonello, di in Italia. No, aspettami tanto, no. Perché c'è il gossip che lavorano, e ci sono le cose serie. E questo è gossip. Beh, però certo, se la casa di Venditti è gossip, una cosa seria. Sì. No. Ma no, tu hai avuto dopo questa cosa qua, è successo qualcosa? Qualcuno ti è venuto ma sotto tutto casa? Perché, allora, non è questo. Cioè, tutti. Ma allora di dove abiti tu? Scusa, ha ragione. Appunto, allora diciamo, io dico quindi, dove abita Cruciani a Milano. Ma non c'è problema, una casa di 50 metri quadrati è in via Savona. Ma Milano. Vedi, ma non vedi che sei moralista. No, io lo dico. Ma se qualcuno, scusami, se anche fosse di 200, saranno ben cavoli. Ma guarda, che io ho una casa via del governo vecchio, allora, a Roma. Senti, ho una casa sopra Baffetto. Sai dove è Baffetto? Sì. Ho una casa sopra Baffetto di 200 metri quadrati, per cui non ho problemi a dirlo. Senti, no, ti voglio dire una cosa: che essendo io un personaggio pubblico, voglio dire, una certa cautela per le cose, perché esistono i matti, i ladri, non c'è dubbio, no? Certo, assolutamente. Quindi evidentemente questa roba qua è entrata nella mia vita non volendo, quindi io mi sono, e meno male che sapevo la notizia perché qualcuno me l'ha fatta notare. Ma chi è stato a iniziare? Questo volevo capire, chi è stato a iniziare? Penso un'agenzia di stampa, penso. Un'agenzia di stampa che ha pubblicato una cosa che è vera o falsa, perché sempre di, qua, di questo no, si tratta. Guarda, non devi dire è vera o falsa, Cruciani, tu l'idea di democrazia di privacy non la conosci. Se tu pensi che ci sia stata violazione della privacy, fai una denuncia, scusami. Ma scusa, infatti l'ho fatta al garante della privacy. Quello già ci ha bastonato, ecco, noi, figurati. Poi, scusami tanto, Cruciani. Dimmi. Ma saranno ben cavoli miei. Io rubo? No. Ma no, questo, ma che questo c'entra questo? No, c'entra lui molto. Ha diritto che però, la gente Antonello, non sappia. Io contesto questa cosa. Cioè, un personaggio pubblico. Non fa laziale. No, ma che c'entra laziale? No, non ho soldi pubblici. Io non faccio non sono un dipendente statale. Personaggio non pubblico. Faccio ma un personaggio pubblico è chiunque. È normale che se tu metti in vendita una casa. Sapere dove abita. No, quello no. Ma se tu metti in vendita una casa, è normale che qualche giornale. Ma io in vendita una casa, cioè, allora è una cazzata, non è vero. Allora è una falsità, ma tutto è in vendita, Cruciani. Vabbè, ma tutto che in vendita. Questo ma sta a piar per culo dicendo una cosa del genere. No, mi sta a piar per culo te, non vuoi capire, cioè, hai fermo capito? Tutto che c'è la pubblicità, poi torniamo. Ah, ecco, bravo. E adesso la borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te, vi presenta sconto forte subito. Da 1 euro fino all'11 maggio compriamo quello che vogliamo e con una spesa di almeno 250 euro abbiamo uno sconto subito alla cassa di 25 euro. E con una da 500, 100 euro. E con una di almeno 1000, 250 euro. E con una da 2000, 500 euro di sconto. E vale anche online. Solo da 1 euro. Scontato. Dettagli ed esclusioni su unieuro.it. 1 euro. Batte. Forte. Sempre. 0,90 di spread. Scopri Mutuo Casa Primavera di Veneto Banca. Fino al 30 giugno 2016 acquisti o ristrutturi casa a tasso fisso o variabile con spread a 0,90 fino a 20 anni. Chiama l'800 37 3797. Esempio mutuo a tasso variabile di 100.000 euro in 10 anni TAN 0,90 TAIGUN 22%. Comprensivo di commissioni di istruttoria, spese incassorate, imposta sostitutiva, perizia e assicurazione sull'immobile. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi in filiale sul sito Veneto Banca. L'erogazione subordinata alla valutazione della banca. Semplicemente la gamma SUV più premiata di sempre. Jeep dal 1941. Festeggia insieme a noi il nostro 75esimo anniversario. Se hai una partita IVA c'è Renegade Business, con navigatore satellitare, sensori di parcheggio e Bluetooth di serie. A maggio tua a 199 euro al mese con 4 anni di assicurazione RCA, manutenzione e garanzia inclusi nella rata. TAN 395. Ti aspettiamo tutti i giorni, tutto il mese. Offerta valida salvo approvazione FCA Bank. Info e condizioni su Jeep Official. Oggi è un grande giorno. Abbiamo battezzato un'alleanza nuova. Arriva su Sky la seconda attesissima stagione della serie TV italiana più acclamata nel mondo, Gomorra. Dal 10 maggio, tutti i martedì alle 21.10, in esclusiva su Sky Atlantic HD. State ascoltando un programma offerto da... Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Combattenti di terra, mare e l'aria. Mussolini. Vogliamo Mussolini. E che cos'è? Mussolini. Ritorna Mussolini. Questo non credo. Rocco Siffredi alle Iene. Chi è il mio successore? Chi sono i miei successori? Vi assicuro, numero uno al mondo, combattore per eccellenza, tomba. Quei due giocatori per eccellenza che io posso dire domani smetto se loro hanno voglia. Anzi, un appellone alla moglie di Totti. Prestamelo, mandamelo. Francesco è il number one. Francesco c'è una carriera nuova davanti. È un erede? Ma è il vero erede. Lui e Cassano. A Abbiamo con noi in studio a Roma, insieme a David Parenzo, Antonello Venditti. Abbiamo già mortacci tua. No, non è detto che siamo a Roma, siamo, trasmettiamo da Bari in questo momento, non a Roma, no. A Bari siamo. Ma quale Bari? Allora devi sapere, Parenzo, siamo perché... a Bari perché qua sotto la radio sono tutti già è vero, guarda, l'hanno fermato in 40 normale, persone. Cioè, non è una cosa non strana. Riusciva a salire su. Ho capito, ma siamo a Bari. Anche a me mi bloccano, Ma ti bloccano perché te vogliono menare. Perché sei stronzo. Allora, devi sapere, Parenzo, che diciamo subito che è venuto qui per raccontarci il suo libro, no, nella notte, no, di no, quello stavo dicendo, quello tra stavo dicendo, nel sai libro che sei citato, no, è quello stavo dicendo, quello stavo dicendo, nella notte di Roma Rizzoli, Antonello, no, ti la citazione di questo stronzo di Venditti è questa. Allora la parentesi, chi ti ha fatto venire qui alla Zanzara, però questo è un altro discorso, no ma dai, sto tra cazzari, va bene, no, allora il discorso è questo. Nel libro di Venditti di Rizzoli, che ha come titolo, Antonello ricordamelo poi, io so altro scherzo, nella notte di Roma, te l'ho appena detto, è un romanzo a pagina credo 60, una cosa di questo tipo. Sì, forse no, più avanti. Ti è stato segnalato? No, non mi è stato segnalato. Non l'ha letto? No, io leggo tutto. C'ho il PDF, sì, non ti preoccupare. Vabbè. Non l'ho letto tutto. Leggo delle parti, però questa fai roba finta qui di saper leggere. Allora, no, allora a quest'ora, a quest'ora, Becco Cruciani mi sembra troppo. Cioè, c'è una scena in cui lui è in macchina con questa Laura. Sì. A un certo punto scrive: lo studio di Radio 24. A quest'ora. Sta fumando dentro lo studio. Sì, bravissimo. Bravissimo. E domani Parisoni va a far culo a me, però. Sta fumando in diretta. Adesso accendo ancora fatto una bene. Diretta. Scusa, fa bene. Di protesta. Non vedo telecamere. No, ci ma sono. Fa benissimo. Guarda lì la webcam. Lo sai perché fa benissimo? Lo sai perché fa benissimo sulla cosa? Perché il suddetto vice direttore della radio vai nei bagni qui, nei bagni interni di Radio 24 a fumare. Dire, come vero, no? Lo dico non io. Vero, va a fumare qui, ogni volta ci sono i cartelli che avvisano non si può fumare. Dunque fa benissimo a fumare in studio, benissimo. Allora, ma c'è una spianata. Io sono un pezzo di spianata. Allora, ragazzi, nel libro di Venditti c'è una citazione della Zanzara, e che è questa: a quest'ora Becco Cruciani mi sembra troppo, cioè dice io non ce la faccio a sentire Cruciani. Perché non ce la fai a sentire la Zanzara? Non ce la faccio perché sei, guarda, fuori da ogni grazia di Dio. Certo. Perché sono fuori da ogni grazia di Dio? Spiega, tu hai un'attrazione per... Ma dai, mi sei simpatico, se no quando cavolo venivo, dai. Perché sei come me, sei un distruttore, un simpaticone, sei... Ma tu un sei diventato democristiano, sei diventato mezzo democristiano. Ma lui è un cinico, tu non sei cinico. Sei diventato... No, io ci sto diventando cinico, guarda. Sì, anche tu. Ma io non posso diventare mai cinico. No, ma perché devi abbracciare un pubblico molto molto largo. Ma non è per capito? Il pubblico, è proprio di natura. Non posso appunto. Essere cinico. Senti, a proposito, cominciamo a fare qualche domanda o no? Facciamo andiamo su Roma, scusa, su quello che ha scritto sul... Fammi fare qualche domanda, dai. Allora, Milano, chi voti a Roma? Dunque, ecco, allora ti devo leggere... Non fare il democristiano, No, allora tu non hai letto... Democristiano, ma ha scritto delle cose terribili. Tu stai scherzando. Chi voti a Roma? La domanda è diretta. Si è tolto gli occhiali, ha preso il suo libro in mano, perché questa è radio, non televisione. Allora, quindi... penso a Mafia Capitale, vogliamo cominciare da qua? No, ma non devi leggere il libro, mi devi dire chi voti a Roma, amico mio. Guarda, per nessuno. Allora aspetta, Poi tutti quanti devono comprare il libro di Venditti perché è uno straordinario racconto, così finiamo la marchetta. Uno straordinario racconto. Oh, a scemo. Dai, state dai, buono. Stai zitto, che marchetta. Dai. Forza, me su. Ne vado, che fai le marchette? No, io non faccio mai marchette. Ma ospito le persone che mi piacciono. Mi piacciono, non offendo nessuno. Quando voglio offendere, offendo in un altro modo, non ti preoccupare. Santa, complicata e folle. Aspetta. Allora, sta cercando. No, ma ti cronaca, sta cercando il punto in cui ti spiega, te l'avevo trovato io. Io lì, dove stava? In cui parla del Partito Democratico e del vizio. Ma io insomma alle primarie, dunque non sono andato a votare alle primarie. Alle primarie del PD, sì. Esattamente. Ma il problema non è tanto il riconoscersi in un Renzi. Vai in qui. Renzi. No, qui. Ragazzi, non si è andato alle primarie del PD, ma adesso ci sono i candidati. Chi vota Antonello Venditti alle comunali? Io lo dico chiaramente, avrei sciolto per mafia il comune di Roma. Ma questa è roba passata, vecchia, tutta no, morta. No, non è vecchia, io sono rimasto. Vabbè, lui vorrebbe un prefetto a Roma, cioè, giusto? Io vorrei ancora avere chiarezza, perché cioè tu non faresti le elezioni non servono a niente, dici? Ma no, non servono a niente, ma adesso non servono a niente. Adesso non noi servono non sappiamo niente. Ancora niente e ci ritroveremo ancora allo stesso punto, perché dunque, se non si fa chiarezza benissimo, no, questo qua è già detto, dunque non ti importa chi diventerà sindaco di Roma? Se no, la... ma attenzione, ma no, come non mi importa? Mi importa moltissimo. D'accordo. Però se fosse stato per me non ci sarei andato alle elezioni, non ci sono le condizioni per non ci sono le condizioni, ma tra questi candidati chi sceglierai? Nessuno? Non te lo dirò mai. Andiamo per esclusione. Perché questo me lo faceva notare un amico. Perché in America i cantanti, gli ex dicono che si drogano, però questa è la prima volta che Venditti non dice per chi vota. È la prima volta. Il mio libro, lo capirai, perché c'è tutta una motivazione sotto. Dunque non dici per chi voti, ma voterai qualcuno? Assolutamente sì. E voterai il Partito Democratico? Ma ti sto dicendo che non te lo dico. E io ci provo. Beh, da come hai scritto nel libro sembra proprio di no. Leggitelo. Da no, come d'accordo. Hai scritto la Raggi sembra ti di sta no. simpatica, la voteresti la Raggi, una come la Raggi? Guarda, non ti dico nulla, Cruciani. Comprati il libro. Compro il libro e che scoprirai per chi vota. Io generalmente voterei per me. Scusa Corrado, sono in diretta. Ma tu lo faresti il sindaco di Roma? Cioè saresti in grado di farlo? Sono meglio in diretta, di diretta fatto. E c'è Venditti che certo, ti saluta. Se avessi un partito, se avessi il mio partito, te lo saluto. Lo farei volentieri, cioè tra le canzoni. Ti saluta Corrado Formiglie. Ma chi se ne frega, ragazzi? Vabbè, dai, tra le canzoni, io dico il più bel sogno. Il sindaco di Roma deve sognare, no? Vabbè, sì, deve sognare. Deve fare l'amministratore di condominio, non deve sognare. Sì, no, deve sognare anche, dare un modello, darsi un respiro, perché non basta fare l'amministratore, perché se no non avremmo bisogno dei politici. Se fosse l'amministratore come dici te, il prefetto andrebbe benissimo. Ma infatti potrebbe andare bene. Tu dici il prefetto oggi sarebbe giusto oggi, perché c'è un'emergenza. Esattamente. Superata l'emergenza si vota. Questo è Venditti, ho capito bene? Esattamente. Vedi? Ma per esempio, se ci fosse un ballottaggio tra la Raggi e la Meloni, tu ma chi non potresti? Mi stai dicendo delle cose, delle cose che succederanno nelle prossime settimane. Ma succederanno agli altri, a me non succedono. Un punto. Ma tu andrai a votare. Andrò a votare. Intanto è vero che io sono andato a votare anche per le trivelle, perché io credo nel voto. Io no. Poi quello che tu metti, allora non sei democratico. Io sono andato a votare. Io no, perché volevo far fallire il referendum. Ma allora fallire il referendum e non essere democratico è un'altra cosa. Se tu sei democratico, vai a votare scheda bianca. No, voto, oppure voti no, oppure non voti no. In modo che non si raggiunge il quorum, è una delle possibilità. Senti, come no? Senti, è la democrazia non andare a votare. Funziona così. Ma come Cruciani, non te, io è quello che penso la democrazia io. Non funziona così. Ma la democrazia funziona anche in questo modo. Partecipazione, diceva anche, qualcuno. Anche. Ragazzi, poi, è un diritto anche non andare a votare. Quindi tu non è un diritto, comunque sarebbe un diritto dovere andare a votare, poi quello che metti nella scheda sono cavoli tuoi. Ma puoi anche non andare a votare in un referendum, cioè rinunci a un diritto e un dovere democratico. Ma, no, quindi non... ma io volevo chiedere a Antonello, ma il problema di Roma sono i romani anche? Ma credo proprio di sì. Cioè non è i romani, è quello che si è creato all'interno di Roma, che è un quindi io ti ripeto, cioè che vuol dire il problema sono anche i romani, spiegami. Senti Crucia, io ho scritto un libro, no, ma un capito, libro però, d'amore, Antonello... e non te lo posso dire in tre no, minuti, ma il problema, perché il problema... Roma è stata fatta in tanti milioni. Quando dici che il problema sono i romani, che vuol dire? Vuol dire che tanti vizi ce l'hanno i romani, che quindi il vizio di purezza, per esempio, sì, che è visto a Roma come un vizio e non come una virtù, sì, questa è una cosa tipicamente romana. Se tu sei un puro in mezzo... Sei un coglione. Sei tu il vizio. Vabbè. La purezza, quando la purezza diventa un vizio, tu capisci a che livello siamo diventati. Quindi a Roma è un po' così. Senti, non mi dicono che fumi ancora così. Moltissimo, però, troppo. Tantissimo. Quanto fumi al giorno? Ma che te frega? Ma è interessante, ma come che come me frega? Come se te dicessi, ma tu, scusami, ma se vuoi vegani, te lo dico. Io sono anche vegano. No, non sono. Non è vero, non è vero. Però che cazzo te ne frega? No, mi interessa, quanto fumi? Fumo tanto, adesso. Tipo, quanto fumi? So. No, poi ti spiego perché. Non c'è una ragione a tutto, c'è una ragione a tutto, logica. Se mi dici quanto fumi... Questa stronzata non ci sto. Cruciale. No, ti faccio... fumo molto. Che ne so, fumo due pacchetti al giorno? Troppo, dai molto, vabbè, due tre, dai. Due tre pacchetti, vabbè, tanto non me lo vuoi dire. I dettagli sono importanti nella vita. Ma è fatta tabaccaio pure te. No, non faccio il tabaccaio. Quanto spendo al giorno le sigarette? Ma che allora cazzo? No, voglio sapere questa cosa qua, perché faccio sentire quello che ha detto Feltri sul fumo. Cioè, perché è interessante. Ma che mi frega a me quello che dice Feltri sul fumo? A me piace fumare. Te frega un cazzo di niente. Che cazzo vuol dire? Ti faccio sentire questa cosa e poi mi dici che ne pensi. Che te devo fare? Ma che vuoi fare? Il monologo sul libro vuoi fare? Aspetta un attimo. No, il monologo sul libro. Aspetta, fermo, Feltri, cazzo. Cioè lo Stato che produce veleno è fuori legge, soprattutto se è consapevole di farlo, e lo è consapevole perché mette questa scritta: il fumo uccide. Dopodiché è chiaro che non tutti sono d'accordo sul fatto che il fumo uccida, io sono tra questi. Il fumo uccide o no secondo te? Ma sarà una delle tante cose che ammazza la gente, non è solo quello, anche i non fumatori muoiono di cancro, dici te? Sì. Per cui a te non ti fa né caldo né freddo il fatto tutte le discussioni. No, non lo so, ognuno c'ha il suo destino e decide il suo destino. Tu te ne foti e continui a fumare 2-3 pacchetti al giorno. Ma io ti ammiro per questo. Perché fino a quando mi piace fumare non ho. Allora, abbiamo detto che tu non ci vuoi dire per chi voti a Roma. Benissimo. Allora, ci puoi dire per chi non voti? Per chi non voti? Per esempio, la Meloni, la voteresti? No, per chi non voti? No, per chi non voteresti? Ma dai, la Meloni non questa roba qua non va bene, Cruciani. Non va bene, d'accordo. Non va bene. Allora, dai. Passiamo alla Roma. C'è un capitolo su Totti. C'è dai, tutto capitolo su Totti, Totti c'è sempre. C'è tutto. Capitolo c'è... Totti c'è sempre. Dai. Sì, c'è allora, sempre. La questione però, tu sarai d'accordo con il rinnovo? Potrebbe fare Totti del futuro di Totti, che c'è? Allora, Totti va maneggiato con cautela. Totti è un bene. Totti è qualcosa, è una leggenda, è Roma. Vabbè. Quindi non va trattato a metro quadro. Perché c'è qualcuno che vuole trattare qualcuno comunque chi? Roma? No, Roma non è metro quadro. È arrivato Obama, ha visto il Colosseo, ha detto: ma in fondo sono 150 metri di è un campo sportivo. Hai capito? Quindi c'è un plusvalore derivato dalla bellezza e dalla storia. Cioè, andrebbe tutelato dall'UNESCO, certo. Totti, come fosse un monumento. È un bene da. Ma adesso non esageriamo, è un bene. E tu perché sei laziale? No, dai, non è per questo. Dai, non è per questo. Ti assicuro, non è per questo, assolutamente. Però la cosa che è un bene tutelato dall'UNESCO, ma che è sta cosa? Dai, dal calcio. Sì, va bene, un bene, d'accordo. È un per grandissimo carità. Giocatore. No, ma per carità, ma dunque che deve rinnovare questo contratto o no? Secondo te va rinnovato il contratto? Ma non è una questione di contratti, vedi che tu ragioni al metro, quindi a contratti. Io sto dicendo cosa rappresenta Totti nel mondo, nell'immaginario, per un altro che non è romano. Quindi però dice che allora la squadra, la dirigenza deve tutelarlo, penso questo che dici? Vada trattato a livello culturale un po' più ampio di un contratto. Non merita queste sberle che ha ricevuto? Ma assolutamente questi no. Sfregi come si potrebbe li chiamiamo? Per esempio chiamare il nuovo stadio della Roma Totti, intitolarlo a Totti, perché no? No, non lo so, perché lui mi vuole portare sul nuovo stadio della Roma. No, quindi... ma che ti voglio portare? Ti voglio fare una domanda. Che... Ma, non lo so, ognuno lo intitola. A cosa lo paragoni vuole. Tu a Totti? Per esempio, cosa lo paragoni? Ma Totti c'ha, come tanti altri a Roma, un problema sull'invidia, no? Sul fatto di essere unico nel suo genere, no? Quindi è chiaro che come Giulio Cesare poi alla fine, che era un personaggio noto, come sai, a Roma, è stato accoltellato dai suoi stessi Tucuoque, Brute, Filini. Dunque intorno si deve guardare un po' alle spalle. Ma potrebbe fare nel futuro, chiaro. Secondo te? Al di là di un anno giocatore... Ma Totti può fare tutto. Che ne so? Può fare tutto. Che tutto può fare? Quel... Non è che può fare ingegnere? Innanzitutto... Può fare quel che vuole, Cruciani, perché lo vuoi ridurre? No, a quel ma che può vuole? Fare? Che ne so, il dirigente di che tipo? Cioè, può fare tutto quello l'uomo che immagine, vuole. Diciamo, presidente l'uomo... ad honorem della Roma. Ma non della Roma solamente. Totti è un uomo comunque che può fare l'assessore tutto. L'assessore allo sport. Ce lo vedresti come assessore allo sport? Della ma perché Roma? Mi vuoi... No, non lo so, perché ti chiedo. Dobbiamo trovare un ruolo pubblico a Totti. Totti già, quando va per la strada o va per il mondo, già Totti rappresenta il calcio, l'Italia, vabbè. Roma, tante Senti, cose. Secondo te la Juventus... Perché vince sempre? Perché è brava, immagino, no? No, ma è una domanda, siccome molti pensano che sia che non sia solamente perché è brava, ma perché eccetera eccetera. Ho capito, la Juventus è stata già, mi pare, condannata per quello che presumibilmente ha fatto. Quindi non capisco perché se tu sei garantista, come spero tu sia... Sì, no, ma la domanda è questa. La domanda è, in questi ultimi 5 anni la Juventus vince solo perché è brava oppure perché ci sono altre questioni? A me sembra che sia brava, che abbia un discorso tecnico molto valido. Dunque non bisogna fare piagnistei contro il potere della Juve, questa è roba passata. Ma il potere può darsi che esista, ma poi il valore tecnico e le partite non è che si vincono col potere, bene. Solamente col potere. Bene, vedi che queste sono risposte, vedi che entri nelle risposte, queste sono belle risposte. Ah, allora. Tu vuoi queste... No, voglio risposte vere! Allora, la Pascale, certo. Sai chi è la Pascale? Sai chi è la Pascale? La fidanzata di Berlusconi. No, non il filosofo Pascale. No, Pascal. Ha dato a Salvini del troglodita. Tu che definizione daresti di Salvini? Guarda, io a Salvini ho avuto anche un piccolo screzio. Come, in televisione l'ho visto. Non volendo. A Ballarose. Ma Salvini è uno che espone le sue idee. Questo non c'è dubbio. Poi c'ha i suoi, come dire, il suo carattere, come abbiamo tutti. Beh, questo quindi, anche è vero. Quindi espone le sue Salvini idee, il suo esiste in un paese democratico, esiste anche Salvini. Cioè, esiste. Però non è la tua storia quella di Salvini. Vabbè, assolutamente è chiaro, no. Vabbè, però, ma è un troglodita. No, ma scusa. Lo definiresti un troglodita, un ignorante, un razzista? Come non lo so, dicono. Non mi permetto di fare questo tipo di affermazione. Ti voglio dire che, per esempio, questo paese deve ripartire da alcune cose fondamentali che sono non di destra né di sinistra. La legalità, per esempio, l'onestà e la legalità. Quello d'accordo. Siamo d'accordo tutti. Siamo d'accordo. d'accordo, e poi bisogna farlo. Ah, non c'è dubbio. Per cui a un certo punto, senti, io ripartirei da questo. Senti, Renzi ti ha deluso o non ha mai avuto illusioni? Ti sembra una specie di despota, come dicono alcuni? No, lascio veramente. Cioè, che lasci? No, quel che penso io di Renzi, di un uomo, io, a me piacciono le idee delle persone, mi piacciono, sì, le storie. Come governa, certo, mica come uomo. Guarda, non, in due secondi non te lo posso dire, non faccio tweet. Ecco. No, ma non è questo sarebbe un tweet, non mi piacciono. Tweet, no, Renzi è di sinistra, tweet, secondo, esatto, te? Renzi fa i tweet. È di sinistra, Renzi, secondo te, definiresti di sinistra? Ma guarda, io ho un'idea di sinistra ampiamente diversa da tutti gli altri, quindi io vorrei dire che farò un movimento, un partito, così spiego. Perché non è veramente, potresti pensare in una seconda, in una terza, quarta vita di fare il sindaco anche tu, di fare politico, no? Ma a me piacerebbe molto, solo che non trovo gente che mi... L'hai mai pensato di fare il sindaco? In questo casino potevi candidarti te, in questo bordello, guarda, di Roma mi di piaceva adesso. Ma poi ti rendi conto che va a finire in mezzo ai vizi di Roma? Come fai a diventare, ammesso e non concesso che io fossi puro, come fa una persona così a confrontarsi con qualcosa? Quello purtroppo è mettere le mani in mezzo alla merda. Conchiato, dici, in questo schifo non mi ci metto. Io guarda, io non potrei, io posso dare però chi non conosco. Cioè, gli altri li conosco. Io, per esempio, tu mi hai fatto un discorso sulla Raggi. Io la Raggi non la conosco, quindi voglio dire. Grillo ti piace? Guarda, Grillo è un mio amico. Dire che sono del movimento è un po' troppo, però voglio dire, sulle basi, cioè sull'onestà, sulle cose, almeno ci siamo. Cioè, dici sui principi generali, sui loro principi hanno generali. Invece io poi PD no. Beh, insomma, voglio dire, cioè, devi controllare un po', no? Mi pare. Specie a Roma, cioè, specie quello che succede a Roma, cioè, a Roma devi avere, i grillini sono più onesti del PD. Non sono più onesti, questa prova contraria. Finora, diciamo, è così. Diciamo. Finora sono più onesti. Non sono compromessi, non sono più onesti. Non sono compromessi. Meno compromessi. Meno compromessi. Quindi bisogna avere, e più non ti posso dire. Perché... Vabbè. Antonè, ti abbraccio. Senti, guarda, diamoci una mano, va. Ma andiamo, perché mica abbiamo litigato. In fondo noi dobbiamo ripiegare su cose più sincere, più schiette, che non siano politiche. Quindi tra la Roma e la Lazio, diamo, abbracciamoci un attimo. Ma io ho sempre avuto grandi rapporti, conosco un sacco di romanisti con cui ho grandissimi rapporti. E dillo che mi vuoi bene, Cruciani. Io ti voglio bene assolutamente. Dillo, me lo devi dire, anche se tu... Me lo devi dire. Ti voglio bene, Cruciani. Ti voglio bene, però... E io voglio bene a te. Però dimmi una cosa, dimmi una strofetta, una piccolissima strofetta, quella che ti fa... Quella in che ti fa ricordare, ladri. Quella che ti fa ricordare la Zanzara. Quando ascolti la quella che ti fa ascoltare, qual è? No, ma io potrei citare tutto in questo mondo di ladri. Come faceva? Oggi è ancora attuale. Ma pazzesco. E adesso prendo un'altra parte. Voi vi divertite con noi e vi rubate tra voi. Che voi, com'è che fa? Vi divertite con voi. Vi divertite con voi, noi. Vi divertite tra voi. Aspetta un attimo, domani devo cantare Milano, a Cireale domani sera. No, sì. Ciao, vi divertite con voi, con noi, e vi rubate tra voi. In questo mondo di ladri. Vabbè. Ma questa festa è per noi, cioè, malgrado la politica, tutto quello che è. Ritorniamo agli annacci, che sempre lei che bisogna stare. Ma ce l'hai una fidanzata tu, Antonè? Ma fate i cazzi. C'è la fidanzata o no? Alla fine t'ha detto. Ma falla finita, manca solo Novella 2000 e stiamo a posto. Ciao. Ma mi hanno detto che sei un... Vattene a fanculo. Mi hanno detto che sei un bello da quel punto di vista, vabbè. Sei riseduto perché l'hai fatto incazzare? No, nel senso ma vuoi che... sapere se sono gay? No, lui è interessato, no, adesso va sulla parte erotica. Vediamo. Adesso va sulla parte erotica dell'intervista. Cosa ti piace di più nel sesso con una donna? Ti sei riseduto tu, Guarda. Tu ti sei riseduto. Nel sesso con una donna, cosa ti piace di più? Tu lo sai che io ho scritto che non c'è sesso senza amore. Vabbè, quelle quindi sono cazzate. Stai parlando. C'è sesso. Come cazzate? Cazzate saranno per te. No, è una bellissima canzone. È una bellissima canzone. Cruciani è un fordista del sesso. Ma c'è chiaramente sesso senza amore. C'è anche sesso senza amore. Io trovo che il sesso sia una buona strada di conoscenza che ti può portare anche un vero amore. Quello è vero. Una strada di conoscenza. È la prima cosa che tu devi fare per capire se sei. E dunque c'è sesso senza amore. Dunque non è vero ma che non c'è dovrebbe, sesso senza amore. Ma sì, sì, assolutamente, ma dovrebbe portare a quello. Quindi ogni volta che tu fai l'amore con allora mi scrivono, è tra i più grossi malati di che esistano. Sì. Ti abbraccio. Ciao, è vero perché è lo so. La notte è vero, di Roma. È vero, è vero, ti abbraccio. Ma io per questo ti ammiro, perché sei anche tu dei nostri. Sei dei nostri. Ciao. Grazie Roberto D'Agostino. Grazie a cazzo. È stato chiarissimo. Grazie a cazzo. La Zanzara. Noi stiamo bene fra noi e ci fidiamo di noi in questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi. Non siamo molto importanti. Cruciani, senti, non ti puoi mettere la faccina sul dente, perché mai rovinare quell'aria da pirata sexy? 8:30, finisco di lavorare, grazie a Dio sto facendo il grano, mi sono lasciato con la fidanzata, ho ascoltato la Zanzara fino adesso e adesso sto andando a scoparmi una grandissima escort alla faccia di Parenzo. Andate a fanculo. Viviamo solo di scandali e ci sposiamo le vergini. Allora ragazzi, andiamo a, in provincia di Bergamo, Riccardo. Ciao Cruciani. Dimmi Riccardo, dimmi. Da dire una cosa, ma tu ci sei o ci fai? In che senso, dimmi? Perché sai, se ci sei ti compatisco, per l'amor di Dio. Ma che cosa, a che cosa ti riferisci? Ma dimmi. Come cazzo fai a dire che tu ambiresti ad avere allevamenti di cani per l'uso alimentare umano? Ma che cazzo stai dicendo? Ma sei impazzito? No, perché? Qual è il problema? Non ho capito. Ma tu sei fuori come un perché? Birrito. Allora perché? Ma perché? Perché è assurdo quello che dici. Tu non perché? Hai un minimo di sensibilità. Ma che c'entra la sensibilità? Ma cosa c'entra la sensibilità? Allora, ascolta. Ma non ho capito. Tu cosa mangi, per esempio? Tu cosa mangi? Ma lascia perdere che io non sono un vegano e non sono allora mangi la carne, vegano. Ammazzi qualcuno, ma contribuisci certo, a uccidere no, qualcuno, aspetta, no? Aspetta, e allora perché i cani sì, i cani no e allora, le mucche sì? Parlare, perché i cani no e le mucche sì? Se fosse, se fosse possibile, cosa, certo non fa. Cosa, ma che ma di, sì, ma i cani di allevamento per essere mangiati, per carità, non si farà ascolta, mai in Italia, eccetera. Ascolta, non li vedo una cosa così scandalosa. Certo, non mi batto, Cruciani, non mi batto per questo, però che c'entra? Ascoltami, dimmi. Ascoltami. Io posso capire che ti ripeto, tu faccia una trasmissione che ha un successo della Madonna. Ma che c'entra questo? Di soldi di pubblicità per tutte le cazzate che dici. Però questa è stata la cazzata più grossa che tu potessi dire. Vabbè, ti ripeto, ma l'ho già detta, peraltro, non è mica la prima volta. Ma ho capito, io forse non l'ho seguito. Va bene, va bene, va bene. Scorsa. Non ho un minimo di sensibilità. Vabbè, la solita minchiata. Non ho un minimo di sensibilità. La solita puttanata. Vabbè. Tu hai mai vissuto con un cane? Tu hai mai avuto un cane? Beh, no, non ce l'ho avuto, ma ce l'ho avuto. Conosco allora un sacco di persone che ce l'hanno. Ma che c'entra, scusa? Prova a pensare, ma mica uccidono quel cane per mangiarlo? Il tuo cane, senti, quello da compagnia, non capisci guarda, una sega. Guarda, dai. No, sei tu che non capisci una sega. Dai, Riccardo, su. Ti garantisco che hai detto la stronzata più grossa che potessi. Va bene, d'accordo, hai ragione tu. Io stimo Cruciani, perché io. Senti Riccardo, io non ho detto che mi batto per questo, non ho detto che mi batto per questo, ho detto semplicemente che su questa cosa qui siamo molto ipocriti, mentre condanniamo il fatto che in alcuni paesi, in Corea, in Cina, eccetera, si mangi il cane, certo. Noi invece uccidiamo altri animali tranquillamente. Ma la sensibilità di un paese, ma scusa, però ma cosa vuol dire? Ma perché il coniglio è diverso cosa da questo punto di ma vista? Ma è diverso perché? Per tradizione, perché nella civiltà contadina italiana il coniglio si è sempre mangiato, ma il cane mai, ma sono dei tabù che le società hanno, ma è normale. Secondo me, secondo me invece se ci, non mi scandalizzerei, tutti, anche tu non avrai dei tabù. Non mi scandalizzerei, no, non mi scandalizzerei se fosse introdotto, se fosse, non succederà mai, se fosse introdotto con male un allevamento specifico il cibo proveniente ma da cani. Ma no, perché il cane nella nostra tradizione ha un altro ruolo, un'altra funzione sociale. Ma capito? Quale funzione sociale? È così, gli animali lei hanno una funzione sociale. Che beh, va bene, dire, Riccardo, ti abbraccio, ciao. Ciao, dimmi Riccardo, dimmi che ascolta, c'è. Ascolta, tu Cruciani hai detto un'altra cosa, hai detto io vorrei che ci fossero degli allevamenti, che venissero autorizzati degli allevamenti. Sì, vorrei, non è che mi batto per non è che mi batto umana per, non è che faccio. Vabbè. Non è che faccio la campagna per no introdurre il cibo la carne di cane. Cazzate però, va bene? Ma che cazzate? Per te una cazzata, per me no, che cazzo vuoi? Cristian Venezia, dai. Cristian Venezia. Non c'è Antonino Cremona, no, che cazzo qua è, ragazzi? Forza, Cristian. Pronto? Dimmi. Sentite? Dai, dimmi. Cazzo, ho sentito, metti giù. No, di solito io ascolto la trasmissione, ma dopo l'unplan di cazzate che ho sentito dire da Farenzo tra ieri e oggi, ho detto no, cazzo, devo chiamare perché non è possibile una roba del genere. Cioè, ieri su Augias, che è stato il trionfo del ragazzi, ma il cavallo si mangia, no? Il cavallo sì, si certo mangia, che non ho capito che differenza tra c'è. Il cavallo si mangia, peraltro, a fronte di quello che gli ho detto prima, solo in alcune regioni d'Italia, ad esempio in Toscana. In Toscana c'è una tradizione per cui il cavallo, ad esempio a Siena in particolare e in tutta la provincia, non si mangia perché è considerato un animale. Non è proibito, esisteranno le macellerie, ma è legato anche alla tradizione. No, a Siena non esistono, ma non è proibito, cioè non è proibito. Non è questione di proibito, non è questione di proibito. La differenza tra dove mi dovete spiegare la differenza che c'è tra il cavallo e il cane. Poi non mi interessa. Non mi interessa che ognuno dà all'animale. Ma che ognuno chi? E al ruolo sociale che ha l'animale. Guarda che è così. Antonino da Cremona, dai, Antonino. Puoi sostenere il contrario tranquillamente. Ragazzi, c'era Cristiano, no, raga, che state facendo con questi telefoni? Antonino. Pronto? Mamma mia, Antonino, sei arrabbiato oggi. Metti ciao, ma non sono arrabbiato, non mi dico un cazzo di che in onda, dai. Calma. Antonino, ma io sono stato 20 minuti al telefono con Benditti, figuriamoci, adesso mi devo sfogare un po', no? Pronto, mi Antonino, senti, dimmi, Luciani? Dimmi. Mi senti? Oddio, ti sento, sì, dai. No, aspetta un attimo. Cazzo, 20 minuti a sentire il filosofo di Benditti e adesso mi ha ascoltato un attimo. No, ma hai ragione, infatti. Comunque adesso bisogna dare grande spazio agli ascoltatori. Il filosofo di Benditti che fa il moralista, comunque lasciamo perdere. Ma moralista, adesso non ha fatto moralista. Uccidere gli animali. Cioè, questo io sono non molto fatto d'accordo con te, anche se adesso è un casino, perché sento la mia voce tornare dalla vostra radio. No, ma tu il problema è che hai l'auricolare, viva voce, qualcosa, questo è il punto. Sì o no? Assolutamente, cioè, sono un attimo. Che comunque volevo dire questo a quel signore della Gesci, il Boy Scout, che uccidere è una cosa importante, è una cosa seria, non è un gioco da insegnare ai bambini, perché allora, quando si uccide un animale bisogna guardarlo negli occhi e bisogna rispettarlo. Dunque vuol dire che per chi ha ucciso e sa uccidere e comunque ha provato questa brutta emozione, perché comunque togliere la vita è una cosa sacra e va fatto con rispetto. Questo che sia un cavallo, un cane, una gallina, un coniglio. E poi volevo dire a quel signore che ha parlato prima che il cane, io ho dei cani, li amo, li rispetto, però ogni cosa va fatta con rispetto, perché non è... Antonino, cosa vuoi dire? Non ho capito che volevo cosa vuoi dire. Questo, che se i cinesi mangiano i cani noi ci stupiamo. Vabbè, Giuseppe da Udine, dai, mangiamo... Giuseppe da Udine. Antonino, vattene, dai, Giuseppe da Udine. Buonasera. Dimmi. Volevo dire che il cantante di prima lì fa tanto il moralista, votare, non votare, qua, là. E poi fuma 3 pacchetti di sigarette al giorno. Uno che fuma. Vabbè, uno può fare il cazzo che vuole nella vita, scusa. Ho capito, no, danneggia la società, perché poi quando gli viene un male dove va? Ragazzi, è consentito il fumo, il fumo è libero, per fortuna. Ho capito, per fortuna siamo tutti. Ah, ho capito, ma che cosa bisogna proibire di fumare? No, allora è inutile che dice che bisogna essere la democrazia. Ma cosa c'entra adesso? Su, dai, adesso non mischiamo le cose, non diciamo castronerie. Giuseppe, quello fuma tanto, 2-3 pacchetti al giorno, e saranno cazzi suoi se poi crepa, no? Cioè, no, poi paga la società. Ho capito, ma tante cose succedono che poi paga la società. Adesso il tuo discorso potrebbe anche filare, tu dici uno... fuma, poi ti viene un malore. Le tasse le paga anche lui, quindi la sanità la paga anche contribuisce lui. Contribuisce anche lui. Dai, alla, non diciamo stupidaggini sempre. Alla sanità. Cosa vuol dire? Però allora, Giuseppe, tu vuoi arrivare a l'unica conclusione che cui porta il tuo discorso è molto semplice, che è quella di proibire il fumo. Siccome il fumo provoca la morte, può provocare la morte, allora tu dici proibiamolo direttamente. Dunque, proibiamolo. Questa è l'unica conclusione del tuo discorso. Sì. Marco, vabbè. Provincia di Como, dai, Marco. Sì, pronto, ciao Giuseppe. Dimmi. Ascolti, no, volevo dire al tuo amico Parenzo, sì, che sta esaltando il sindaco di... Sì, ci hanno fatto due coglioni col sindaco, sì, di Ronda. Ne parlano tutti, è la notizia del giorno. Ma che cazzo? Ne parlano tutti per dire minchiate, per dire banalità. Sì, certo, per dire banalità. Allora, sentiamo la cosa intelligente di Cruciani sul sindaco. No, di Londra, io non ho nulla da dire. È stato eletto un nuovo sindaco di Londra, appunto. Non ho nulla da dire. Infatti, non dico nulla. La cosa nuova. Infatti, non dico nulla. È che tutti sottolineano. Ma Londra è pieno di pakistani, però. È pieno di pakistani. E questo è il punto. Proprio per questo è un segnale importante. Ma che banalità è il segnale importante? allora dito una cosa, ma non, non, allora, infatti non c'è... nulla a dire, infatti no, non nulla a dire perché, no, perché a, oltre alla no. parola cazzo vaffanculo sì, è quello è arrivato, non me ne frega niente, non genio, sai dire è arrivato il allora, genio no, Marco della provincia di non Como, è dai. Genio è dire semplicemente che oggi lì qualcosa è accaduto, va bene, è accaduto essendoci qualcosa. Una grande comunità di pakistani, quei pakistani si sentiranno ancora più integrati, sì, non è così stupido Marco provincia di Como, perché hanno eletto un pakistano musulmano europeista e anche pro omosessuali, guarda un po' come l'Islam. Bene, ottimo, grande guarda notizia. Un po', grande guarda notizia. Un po' che segnale, che simbolo può diventare questo qui. Marco un dalla provincia di Como. Pro gay, guarda che posso segnale parlare? Potente. Marco dalla provincia di Como. No, volevo soltanto dire a Parenzo di andare a starci a Londra. Sì, infatti ci andrei, ci andrei molto volentieri a vivere a Londra. Io. Ci andrei appena posso, infatti io vado a Londra. Andrò anche il quarto weekend di giugno andrò a Londra. Appena posso vado a Londra, bene, infatti, ottimo. Che è una città straordinaria. Massimiliano dalla provincia di Ravenna. Ciao, ciao. Buonasera a tutti. Niente, dimmi. Con tutto il rispetto per il Santo Padre, vorrei ricordargli che lui ha fatto voto di castità, ma il 90% dei maschi che arrivano, che sbarcano a Lampedusa o nelle nostre coste del sud Italia, purtroppo non l'hanno fatto e purtroppo avranno anche loro nel prossimo futuro delle esigenze sessuali, normali, diciamo. L'esigenza sessuale. Normale. E cosa facciamo? Come risolviamo questo piccolo problema tecnico? Assoldiamo delle prostitute sedute stante per soddisfarli? Come pensano di fare nei prossimi anni, quando avremo qualche centinaio di migliaia di giovani maschi tra i 20 e i 40 anni che non riescono a trovare magari una donna che li soddisfi, perché non è facile per problemi di affinità culturale e quant'altro? Scusa, cosa c'entra il Santo Padre con questo? Scusa, Massimiliano. Ma sì, perché professa con troppa facilità l'integrazione, l'accoglienza. Ma tu dici poi arrivano qui solamente maschi virgulti che vogliono scopare. Ascolta, quante donne hai visto sbarcare a Lampedusa? Io ne ho viste ben poche, sono quasi tutti uomini e giovani. E che c'entra il sesso? Tu dici poi alla fine si vogliono sfogare. Vabbè, ma cosa vogliamo ignorare questo fatto qui? Quando questi qua sono un mese, due mesi, un anno, due anni, tre anni che sono qua, ma anche loro hanno le loro pulsioni normali, cioè noi facciamo andare l'accoglienza così, tanto per farla, per lavarci l'anima a basso costo e comprarci un posto in paradiso, ma poi ci sono dei problemi, anche questo qui si può sembrare banale, ma non lo è affatto. Quanti anni siete stati voi in astinenza nella vostra vita? Bah, io manco un mese di seguito. Hai fatto bene, più si scopa meglio è, ma anche questi qua magari la pensano così. Con che cosa scopano i muri? E vabbè, poi pagheranno le prostitute, si fidanzeranno. Con che soldi? Che ne so. Con che soldi? Ma non lo so, quelli che rubano, quelli che lavorano. Cioè... Ma sì, dai, facciamo tutti. Vabbè, noi adesso, tutti. Il problema secondo te è quello là, è quello no, di questi qua? No, che... no, ce ne sono di ben più grossi, ma questo non è mica da sottovalutare. Ciao Massimiliano, ciao. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. Immigrati e il cibo. Sentiamo. Mangiano bene, pastano bene, alle cucinano bene. Io sono lì a comprare a mangiare con mio, perché io non piace pasta. Quando io mangiare pasta, due ore fame ancora, capito? Ma veramente non abbiamo capito un cazzo. Comunque, dopo due ore ho ancora fame se mangio la pasta, questo ho capito, no? L'altro diceva che non mangiava bene. Ragazzi, la gente che si lamenta della pasta e del couscous. Gente che si lamenta, che dice tutta la settimana mangio pasta. Marcato Lega Nord, che naturalmente, vuol dire, no? Va in brodo di giuggiole di fronte a queste cose, no? Mi chiedo anche perché non fornire uno spacciatore di marijuana per rilassarsi un po', o magari qualche donna di facili costumi perché si annoiano. Carabue, il mitico Carabue, che dice nulla di scandaloso nel prendere un cuoco pakistano, senti. Beh, certo. Quanto alla proposta di prendere un cuoco pakistano, finché lo pagano loro, finché lo pagano, diciamo, il sistema dell'accoglienza, io non ci troverei nulla di scandaloso se queste persone potessero poter mangiare quello che più gli aggrada. E via, pure col cuoco pakistano, ma che cazzo ci frega? Sì, va bene, a chi disturba, a chi dà. Ma no, ma va benissimo, per carità. A chi disturba, a chi ma recca danno? Ma va bene anche il cuoco pakistano, allora. Va bene. Ho letto addirittura, Parenzo, che in un non so dove la Caritas fornisce anche agli extracomunitari anche l'assicurazione della macchina per andare a lavorare. Cioè l'assicurazione della macchina. Beh, questa è una cosa intelligente, perché come purtroppo l'assicurazione della macchina. Questo tu lo dici in chiave no, populista, perché gli pagano pure quello. In realtà, normale, se un italiano fa un incidente con molti di questi qui che non hanno l'assicurazione, chi la prende nel cesto sono gli italiani che non vengono risarciti. Quindi in questo modo si agevolano gli italiani per avere i risarcimenti. Non puoi andare a lavorare in macchina senza assicurazione, se non hai l'assicurazione, se non hai i soldi, non puoi prendere. Gli italiani che vado alla Caritas, certo, datemi l'assicurazione della macchina. Ma questo è un modo per venire incontro a loro, che così vanno a lavorare e sono anche agevolati nella condizione di andare a lavorare. Ma c'è un limite a queste cose? E non pesa sulle tue tasche. Ma esiste un limite a queste cose oppure no? Di farli esisterà morire. Un limite? No, tu devi limite. Dire che li vuoi dico, l'assicurazione, morti, il cambio del cuoco pakistano, il menù completo, va tutto bene. Ma qual è il limite? Qual è il limite? C'è un limite? Ci deve essere un limite, no? Perché se il limite, allora che ne so, vediamo pure che non mi fate dire, va. C'ho le palle piene. La zanzara. Parenzo, verrà un giorno in cui tua moglie ti dirà: amore, mi sono integrata col Mohammed. Voglio vedere come cazzo reagisci. Comunque ragazzi, Trump è il numero uno, dopo aver fatto una campagna elettorale in cui attaccava comunque i messicani eccetera eccetera, adesso dice che ama gli islamici, mangia i tacos e va ad assistere a una match di pugilato tra non mi ricordo che immigrati. E ovviamente adesso che è praticamente candidato repubblicano deve prendere i voti di tutti, numero uno assoluto. Mamma mia, quanto vorrei essere in America per votare Trump, guarda. Quanto vorrei essere in America e avere la possibilità di votare Trump, Donald Trump. Ma che tu pensi solo all'aspetto dello spettacolo e non tutto. A quello del paese. Cioè mettere nella scheda, anche se non si elegge direttamente il presidente nella scheda, no? Si eleggono i delegati, no? Credo. Delegati al congresso. Donald, scrivere così proprio col ferro, Donald Trump. Mamma mia, per carità. Proprio col godimento. Perché tu sai chi voti effettivamente. Lo sai che io potrei rinunciare se Trump, no, questa è una minchiata che dici te. Sai cioè, che se no è così. No, è una io puttanata. Mi riconosco in chi voto. È una puttanata, questa è una puttanata. Ah, è una puttanata. No, è una puttanata invece, enorme, invece una puttanata pazzesca. Tu non ti riconosci nel sistema dei valori delle persone che ti rappresentano? No, non c'entra nulla quello là, non c'entra nulla. Cioè, allora alcuni si riconoscono nel voto, io non mi riconosco allora in quello che voto. E allora io voto per mille motivi. Voti? Ma lasciamo perdere questo, non è importante. C'ha una logica. Ma non è importante. Non è importante. Adesso non è importante, poi tu lo spiegherò. Sei chi voti? No, è una puttanata questa qua. No, è una stronzata. È una stronzata questa qua. È una stronzata. Allora, io proprio, sai che cosa? Se Trump diventasse presidente, potrei fare un voto di qualcosa. Cioè, l'elezione di Trump non le rispetti mai, mi provocherebbe. Come non rispetto? Mi rispetto sempre. Hanno tirato su 200.000 euro, ma nessuno l'ha tirato su. E non hai mantenuto la promessa che avevi fatto. Nessuno. Se Trump diventasse presidente, potrei fare una astinenza, credo, di due mesi di astinenza sessuale se Donald Trump diventa presidente degli Stati Uniti. Due lunghissimi mesi, da novembre a dicembre, poi mesi freddissimi dall'inizio di novembre fino all'inizio di gennaio. Se Donald Trump, il mio candidato preferito, diventa presidente degli Stati Uniti, faccio un'astinenza sessuale di due mesi. Questo non credo. No, questo credo. Vai Donald. Allora, Marcato, il leghista Marcato, Parenzo, l'ottimo Marcato. Contro la Malpezzi. La Malpezzi che cosa? Del Partito Democratico, se non sbaglio. Tu li conosci tutti, no? Li conosci tutti. Più noi diffondiamo la microaccoglienza ed è questa. Guarda che a furia di parlare di micro rischi di farci venire qualche sospetto sul micro e sulla vicinanza tua al micro, caro Marcato. Perché stiamo parlando di cose serie. Sia buono, Marcato, se no fa una finaccia stasera. Micro non è male. La Malpezzi, bravo, bravo, pensa che Marcato ce l'abbia piccolo, ce l'abbia un micro uccello, diciamola tutta, perché noi traduciamo, vogliamo anche tradurre in un linguaggio comprensibile a tutti, no, quello che capito, dicono i politici. Se l'ha capito, beh, se l'ha capitato, specifichiamo. Cioè, la signora Malpezzi pensa che il signor Marcato, Lega Nord, o Malpezzi PD, pensa che Marcato c'ha un pisello piccolo. Ma ho un cervello piccolo anche, che magari è la stessa cosa. No, micro era, cioè, ma perché? Ma secondo me era il cervello anche. Se vuoi andare tu a cucinare, sicuramente perfetto, sei bravo viste le tue dimensioni, perfetto, a questo punto che sono macro da quel punto di vista. Mamma mia, e tu sei microcefala? Ecco, va bene, mi sembra un buon cosa. Oh, dove andiamo? Piero, provincia di Treviso, vai ragazzi, battaglia, forza, forza, interventi, vai, allora, forza, adrenalina, forza. Il tuo amico Parenzo che hai messo lì, pagato per fare il cazzone, va bene, però è proprio per il dire quello vaglia che penso. Dei poveri, è il monio vaglia dei poveri, poverino, lui gode se arrestano Mattielli, se si suicida in carcere, gode quando gli italiani gli fanno le peggiori cose, gode sempre di queste cose qua, e adesso gode che c'è il sindaco di Londra musulmano. Beh, posso dirgli una cosa? Sì, pakistano, musulmano e pro gay. Gli italiani per bene stanno dalla parte di Israele, non dalla parte dei terroristi di Hamas. Stanno dalla parte dei non c'è tuoi, dubbio. Io sto tuoi, dalla parte ecco. Quindi, contro i terroristi di Hamas. Non c'è bisogno sempre di fare radical chic. Ecco, non c'è bisogno. Ma chi è che fa radical chic? Cos'è chi, questa lo idea? Tu, dai, quella... David, dai, io lo faccio favore, assolutamente dai. Radical chic. Io dico quello che penso, ma non... radical chic è una definizione anche razzista e stupida. Non vuol dire niente radical chic. Che vuol dire? Perché invece uno che è chic e di destra va bene, non ho capito invece. Uno che è pieno di soldi ed è chic e di destra va bene. Tutti stereotipi stupidi. Stereotipi idioti. Bravo, bravo, buon faccio. Non so cosa ne pensa Giuseppe di questo. No, guarda, adesso non si sente in cazzo come al solito la tua telefonata, però a me pare chiara una cosa, che possono aver eletto pure un sindaco musulmano pakistano, ma la cosa sicura è che in alcuni paesi islamici un sindaco in alcuni paesi islamici un sindaco, diciamo, cattolico, cristiano come, o di un'altra religione, certo, non verrà mai eletto. Beh, questo certo, è il punto. Infatti la dimostrazione è la superiorità dell'Occidente. Ma certo, la dimostrazione è la dimostrazione di quanto è bella Andrea la nostra Vicenza, democrazia invece. Andrea esattamente Vicenza, questo. Andrea, ciao. Vai, dimmi. Io intervenivo a proposito dei cani di prima, che avete fatto un discorso. Ecco, a Vicenza noi ad esempio una volta si mangiavano i gatti e ancora oggi ci sono posti dove si possono mangiare i gatti. Ma quali sarebbero questi posti dove si mangiano i gatti a Vicenza? Non, ogni volta me lo dicono, ma non è vero, non esistono, dai. In casa? Non esistono. Tu li conosci? No. Sì, ce n'è uno dove si va a mangiare, ovviamente non te lo vengo a dire adesso, dov'è? Beh, però, allora, scrivimelo. Che vuol dire? Allora, è una trattoria molto alla buona. Sì. Dove diciamo si mangia anche l'asino, si mangiano vari tipi di carne. Ma dov'è? Dammi un'indicazione, dimmi una via, così la rintracciamo. Dimmi una via. È nella parte sud di Vicenza. Ma no, nella, mi devi dire la via, provincia. Mi devi dire la via, amico mio. Che se la ricorda la via? È di fronte alla chiesa di non me la ricordo la via, ci so arrivare. Di fronte alla chiesa? Alla chiesa di questo paese. Ma come si chiama il paese? Si chiama Barbarano. Barbarano. Cioè, vabbè, tu dici ormai che a Barbarano c'è un ristorante dove si mangia il gatto. Sì, dalle parti. Sì, non è proprio Barbarano, dai, però è, ma, ragazzi, è lì vicino. Ma che vuol dire lì vicino? Barbarano o no? Ma non può dirlo perché è illegale, fa chiudere il locale. Ma chi se ne frega? Qual è la località? Allora, è Barbarano, dai, è Barbarano. Non ti sposta tanto gli equilibri. Ma no, Barbarano, non mi sposta gli equilibri, vado a verificare, casomai proteggo questo luogo che commette un'illegalità. Ti garantisco essere buono, anche perché io non capisco questi che mi ce l'hanno coi cani quando, ok, io non lo mangerei il cane personalmente, però l'avete mai visto voi che vi sentite lesi da chi potrebbe mai mangiare un cane? No, l'avete mai visto un vitellino? L'avete mai visto un vitellino? L'avete mai visto? Questi qui si offendono se uno mangia un cane. Ok, io non lo mangerei neanche io, però personalmente se vedi un vitellino e poi pensi che noi ce lo mangiamo come se niente fosse, evidentemente è la stessa cosa del cane, è la stessa cosa del cane, identica. Ma identica. È completamente diverso. Esatto. Identica. Il rapporto che noi abbiamo con i cani nella nostra società è diverso da quello che abbiamo con le mucche, con le galline o ad esempio questo anche sicuro, con i gatti. Ma questo non significa nulla. Questo significa anche gli uccellini, che percezione... anche gli uccellini che abbiamo dentro casa, e poi gli uccelli ce li mangiamo lo stesso. Ci sono, ma infatti, ma allora, su quello c'è una sensibilità. Anche i cavalli vengono utilizzati per fare il dressing, insomma, per fare un sacco sacco di c'è cose, un no? motivo se il cane nella nostra cultura è come dire percepito come un animale che non si mangia. Posso dire che è un'ipocrisia o no? O sono o questo, è o una dillo, mangiatelo, ma è non si può dire, non si può dire. Si può dire, ma è una stupidaggine, non è vero che è un'ipocrisia. Fermi tutti. C'è la sensibilità degli altri, non è un'ipocrisia. Fermi tutti. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Quanto tempo, Staglio Olio, come state? Luciano, buonasera, sono Donato, come ho capito. Sento poi, a me mi interessava sapere, il 3 aprile avevo ascoltato la vostra trasmissione, che c'è un dottore che fa l'operazione al pene. Al pene. Non so, Luciano, a me non mi interessa, grazie a Dio. È un parente lontano, che combinazione. Se mi potrebbe dare il numero del telefono, li faccio mettere in contatto con loro, non so. Ancora molto piccolo, non è un conoscente, non è parente neanche. Io grazie a Dio se 16 centimetri. Ancora qualche perla di Piagnisteo napoletano, Carlo Alvino. La passione che abbiamo noi, voi neanche ve la sognate, perché voi vivete di altro, vivete di dispregio delle regole, perché il vostro motto è un motto che offende la cultura sportiva. Vergognatevi, vergognatevi, vi dovete vergognare, vi dovete vergognare. Ovviamente sta parlando con un tifoso della Juventus, eh? Te volevo solo dire la mia considerazione. E qual è questa considerazione? La considerazione di un lestofante, perché uno che non che mistifica ancora, i risultati del campo. 12 punti di vantaggio. Non è vero, è un falso. È vergognosa questa tesi, è un falso. Il campionato è stato palesemente falsato dopo Torino Juventus. Lei accetta uno scudetto sporco pur di vincerlo. Questo va contro i principi dello sport. Si deve vergognare. Il Napoli non ha la forza di vincere. Noi siamo onesti. La nostra forza è basata sull'onestà, sulla passione, sulla trasparenza e sul lavoro. Sono cose, sono dei principi che lei non conosce. Il Piagnisteo napoletano by Carlo Alvino. Abbiamo con noi il mitologico professor Bossi, Maurizio Bossi, sessuologo. Buonasera, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo, ben trovati. Come è andata la giornata? Bene? Beh, insomma, bene. Sono successe un sacco di cose, qui siamo sempre sul piede di guerra. Caro professore, lei mi deve spiegare questa teoria, che ha avuto poco tempo oggi per spiegarla, stamattina, mattino 5, che è la teoria della minima penetrazione, massima retrazione. In che cosa? Certo. Cioè, perché dobbiamo dare anche un certo sollievo a quelli che hanno un pisello non troppo lungo, diciamo, no? Non troppo di dimensioni grosse. Sì, Donato da Varese, eccetera. Prego, no, che c'entra Donato da Varese? Mauro da Manto. Professore? E ci siamo, e via. Eccoci. Allora. Dunque, innanzitutto, diciamolo ancora una volta per tutte, qual è la dimensione media del pisello, diciamolo, nell'ambito mediterraneo? 15 più o meno 2, 15 centimetri più o meno 2 centimetri, quindi da 13 a 17. Detto questo, non è assolutamente importante. Perché? Beh, non è importante. Se ce l'hai, natura, se ce l'hai di 10? E se ce l'hai di 10 è un po' pochino, ma attenzione. Madre Natura ci ha fatto un regalo eccezionale. E qual è? Voi maschietti, noi maschietti, i maschietti, degli uomini, gli esseri umani, hanno il pene più lungo in assoluto di tutti gli altri primati. Perché? Ma perché sono stati selezionati. Ma la cosa importante, attenzione, è questa. La donna, la nostra donna, la femmina dell'uomo, dov'è sensibile? Dov'è più sensibile? Non lo so, me lo dica lei. Nella profondità dello scurvis vagina, oppure nella parte più vicina alla vulva, la parte più vicina all'esterno, quei 3 centimetri mitici, magici, in cui madre natura ha messo la massima sensibilità. Ebbene, basta un pene che raggiunga quelli mitici 3 centimetri con una minima penetrazione, ecco il concetto, e la massima retrazione, affinché l'effetto Saturno, sapete che cos'è l'effetto Saturno? No, professore. Possiamo immaginarlo però forse. Che cos'è l'effetto Saturno? Bravo, Saturno che caratteristica ha come pianeta? Che ha gli anelli. Gli anelli, ebbene, sì, intorno. Tutti voi avete un anello, è la corona del glande, fondamentale, fondamentale per dare piacere alla vostra compagna sapendolo usare. Ma bene. Quale sarebbe questa corona del glande? Quella che si mette, gli anelli che si mettono di ferro, no? La no, corona è la tua. No. Ah, no, quella naturale, dice. È quella naturale, meravigliosa, che è più evidente. E chi è circonciso? Chi è circonciso? Chi è circonciso addirittura è esposta, si vede ancora. È favorito, meglio. È favorito in questa cosa. Beh, indubbiamente è favorito. Se poi allora, però, scusi, professore, io mi sono un po' perso in questa sua descrizione. Lei dice minima penetrazione, cioè uno, mettiamo che abbia un, non dico un problema, però un pisello di 8-10 centimetri. In teoria è un po', come dire, ha un deficit, no? In teoria. Lei dice: attenzione, attenzione, un momento. Cioè, non ci si può arrendere di fronte a questa cosa qua, perché la donna si può fare godere anche con un pisello di questo tipo, giusto? È giustissimo. Giustissimo, benissimo. Esteticamente può essere non gradevolissimo, esteticamente può creare qualche problema più psicologico. Ma scusi, ma la donna non gode quando uno arriva fino in fondo, cioè quando affonda del tutto, no? Lei dice, no. No, la tua mamma, quando ti ha partorito, quando ha partorito te, in quel momento meraviglioso... Povera mamma, scusami, dimmi. Ecco. La tua mamma, se in quel momento avesse avuto le terminazioni nervose molto sensibili attorno al collo dell'utero, cioè là in fondo, avrebbe avuto un dolore pazzesco, già hanno un dolore incredibile. E invece? E invece madre natura che cosa ha fatto? Il buon Dio, chi per esso, in questo momento non è importante, che ha messo poca sensibilità là in fondo, al buio, in fondo alla vagina, e tanta sensibilità in basso. Cioè la maggiore sensibilità è proprio in apertura, bravo, no? In apertura di seduta, ecco, come dire, no? L'ouverture, professore, bravo. Allora, io però, mentre capisco la minima penetrazione, ma la massima retrazione cos'è? Torniamo all'effetto Saturno. Torniamo all'effetto Saturno. La corona del glande. Ritraendosi sulle piccole labbra della vagina, ebbene in quel momento dà quello schiocco. Dunque è meglio andare dentro fuori. Delicatamente, lentamente, secondo una regola fondamentale. Scusi, però io incontro solo donne che mi dicono scopami forte, perché allora? Scusi, professore. C'è qualcuna che ama questo, ma è più un atteggiamento di tipo psicologico. È più l'atteggiamento che la realtà, diciamo. Che la realtà. Perché se voi, che sicuramente siete uomini di mondo, avete mai delicatamente toccato quella zona, la zona vaginale e perivaginale, avrete notato come la sensibilità massima dov'è. Parento, lei che sa tante cose. No, di queste cose non capisce un cazzo, scusi, professore. Sa di tante cose, ma di queste cose non capisce una sega. Non vorrei insistere su questo argomento. Però magari capisce che le poche donne che ha conosciuto. Capisco, poche, insomma. Poche, si contano sulle dita di una mano. Non faccio pubblicità, non metto manifesti come Cruciani sulla mia vita privata. Ma io non faccio nessun manifesto. Come no? No, non metto nessun manifesto. Lo sa tutti, come no? Ma ogni giorno ne parli, lo dici. Però, professore, scusi, torniamo. Io non faccio pubblicità. Voglio capire una cosa. Quando uno, ecco, no, per capire, perché quando una donna mi dice scopami forte, scopami fino in fondo, eccetera, lei dice me stanno a fregare, in fin dei conti. No, ti stanno dicendo quello che è il loro fantasmatico. Però non godono con quello. Pensa come avviene l'autoerotismo femminile. È raro che avvenga con nella profondità, sì, è vero, sì. Immaginate tutti quello che abbiamo... Ecco, a proposito, è uscito un sondaggio in cui si parla, oggi pare che sia questo maggio il mese internazionale della masturbazione. Sembra, ormai lo sai, si dice qualsiasi cosa ormai, per cui non è quello il punto. Ed è praticamente, si dice che l'uomo, il 91% degli uomini guarda il porno per darsi piacere, invece il 53% delle donne in America utilizza i sex toys. Vabbè, ma la masturbazione che ruolo ha nel sesso, fondamentale, anche nel sesso a due? Ci dica qualcosa, professore, anche nel sesso a due di coppia, la masturbazione che ruolo... Nel senso a due è una eteromanipolazione che è fondamentale nei preliminari, è fondamentale nel preludio e nel postludio. Ma andiamo alla domanda seria. Sì. L'autoerotismo è importante? La risposta è: io non so se sia un peccato o meno, so che dal punto di vista sessuologico è il modo per mettere in pratica il principio socratico. Cioè? Socrate parlava di masturbazione, sì, quando diceva conosci te stesso, in realtà intenderà anche questo: se io conosco il mio corpo, posso dominarlo e posso insegnarlo a te. Non ce lo insegnano al liceo classico. Però Emilio, anche in età adulta, lei consiglia sempre una pippetta al giorno, non dico una pippetta al giorno, però una settimana, adulto, in carenza di un rapporto regolare, ma anche in presenza, o anche complementare. Ti dia ragione, te l'ho capito. Se vuoi avere ragione del tuo stile di vita, glielo puoi chiedere direttamente. No, però, nel senso, quando uno ha un impulso irrefrenabile verso la masturbazione, è malato, secondo lei? Un impulso irrefrenabile, posso dire questo. Io ormai sono in pensione, ma quel giorno che un giorno venne un signore e mi disse: io le faccio 13 al giorno, dice: ma è un po' tanto. Ecco, allora, attenzione. 13 al giorno, anche... è venuto uno da lei che ha detto se ne faceva 13 al giorno. Sì, ragazzi. 13 seghe al giorno. Lui non l'ha definito in questo modo, neanche io, però fondamentalmente è lì la compulsione. Allora a questo punto è quello che passa delle ore davanti al porno e non va assolutamente bene. Allora professore, un altro tema è questo: la masturbazione prostatica, di cui abbiamo parlato molto questa settimana. La masturbazione bellissimo, la masturbazione prostatica. Cominciamo con un libro, perché un po' di cultura minima ci vuole, scritto da una donna e il tema è bellissimo. Qual è? Fallo felice. Non c'è bisogno che io una spieghi. No, assolutamente no. Bene, questa donna ha identificato una serie di punti. Sì. Attenzione, non esistono punti, esistono aree. Alcune aree dell'apparato maschile e femminile che possono essere stimolanti e stimolate. Sì. Una di queste è il punto L e il punto P. Andiamo subito sul punto P. Sì. O area P. Che cosa? Area P, non è l'area C di Milano. Area P sembra un parcheggio, sembra l'area P. Comunque area P. Allora? Non bisogna pagare nulla per entrare. Esatto. Basta essere delicati. Basta avere un dito possibilmente guantato. Basta non avere le unghie lunghe. Sì, certo, queste tre cose. Ma che l'area P dove sarebbe l'area P? L'area P è quella praticamente che ha messo Marino, no? A Roma. No, ma dov'è l'area P? Professore, l'area P dove sarebbe nel corpo umano? P da prostata, quindi in corrispondenza alla prostata. Dov'è la prostata? Immediatamente sotto la vescica, sopra l'uretra. Ma andiamoci più semplici: come posso toccare la prostata? Mettendo un ditino dietro lo scroto, tra scroto e ano, ovviamente, il perineo, quella zona, è un tom-tom, delicatamente, professore. Ma sempre delicatamente, all'orifizio anale. È un Google Map, praticamente. Cioè, praticamente il dito al culo, professore. Cioè, io non mi esprimo, però. No, dico io traduco. Ha preso un tom-tom. Ma scusi, perché bisogna mettersi un guanto? Perché le piccole ragadi che tutti avete sulle mani, le piccole escoriazioni che noi abbiamo in quell'area sono particolarmente a rischio, e quindi piccole erosioni sulle mani, escoriazioni, possono infettarsi. Ovviamente. Dunque lei consiglia, se uno vuole praticare praticamente la masturbazione prostatica, che poi non è masturbazione ma perché c'è un'altra persona che te la fa, diciamo, no? Non è che uno si auto, non è che io mi metto un dito nel sedere, insomma. Lei consiglia di usare sempre un guanto, un qualcosa. Sì, questo è il consiglio. Assolutamente. A me è successo sempre senza, professor. Però un profilattico sarebbe l'ideale. Però, detto questo, e la zona L, qual è la zona L? Non ho capito. La zona L prende il nome da una dottoressa, Leslie Lionelli. Leslie, quindi L, che lei ha identificato. Questa zona alla radice del pene, fondamentalmente. Alla radice del pene, sì. Alla radice inferiore. C'è sotto qui adesso devo andare un po' forte, ragazzi. Vada forte. Dipende. Vada. Ragazzi, io non lo so. Vada. Durante la suzione. Durante la? In corso di fellazio. Sì. È possibile, contemporaneamente alla suzione, pigiare alla radice del pene, sulla parte inferiore, per di più non posso dire, pare che la coesistenza della suzione sull'apice del pene contemporaneamente alla pressione in questa zona determini una gratificazione erotica particolarmente intensa. Beh, con questo diciamo che possiamo chiudere la settimana in bellezza. Professore, grazie. Grazie, professore. A presto. Ciao, ragazzi. Ah, scusate, una cosa ancora importante. Che c'è? Dopo la suzione e la pressione sulla base direi del pisello, che c'è? Direi che possiamo chiudere qua. C'è uno scritto importante sull'argomento. Qual è? Da cercare in internet, è quello del professor Zappalà. Non sto scherzando. Zappalà, che è una marchetta. Fratello Zappalà. Che è una marchetta, no, professore? No, no, è una marchetta. No, no, è vero. Professor Zappalà, cercheremo. Professor Zappalà di Forza Italia. No, non è quello. Ah, no, Zappalà. Grazie, professor, grazie. Ciao, ragazzi. Paolo da Milano. Tu non scopi? Questa è la... Paolo Milano, dai. Dopo questo argomento qui, ritornare sulla questione di Corona e della rumena Doina, com'è possibile che sia lecito andare in televisione a dire che la mafia non esiste e non sia possibile parlare con Facebook con i propri figli soltanto perché Non ho capito, Corona cosa ha detto in televisione? Non ho capito. No, Corona sarà uno contro tutti da Costanzo. Sì, domenica. Bruno Vespa ha invitato... Salvo Riina a presentare il proprio libro e Doina non può neanche usare Facebook, sono tutti sono cose diverse, amico mio, sono cose diverse, quella tanto le condanne sono condanne. Beh, ho capito, quella ha ammazzato una persona, però anche Riina è stato condannato per associazione esterna che sembra pare si spera. Vabbè, comunque è una provocazione, che possiamo prendere. Riina è andato in televisione a dire che la mafia non sa bene che cosa sia e che il padre va rispettato e che le sentenze si contestano. E non mi sembra che proprio il comportamento di Corona sia il massimo. Cioè, è vero che quello che dicono le Iene, che prende soldi in nero per andare a fare... Quello è gravissimo, non capisco come ancora non c'è stato un intervento. Cioè, tu sei in semilibertà e, secondo quello che raccontano le Iene, prendi dei soldi in nero per le tue serate, con un congegno che abbiamo descritto l'altro giorno insieme all'inviato delle Iene, Filippo Roma. Esatto. Mi sembra folle che nessuno intervenga. Cioè, tu in semilibertà organizzi un giro di denaro in nero, come è stato provato dalle Iene attraverso anche i legali, confermato dai legali che avevano praticamente dato via libera al servizio, e tu praticamente che succede? Nulla, niente. Non succede in niente. Televisione. Roba incredibile, dai, su. Ragazzi, ci sentiamo lunedì, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Buona settimana e se vedo un prezzo. Radio 24. La passione si sente.